grazie di aver accettato il nostro invito a questa presentazione. Noi vogliamo qui riflettere su un'ipotesi di lavoro, diciamo, un progetto che ci aiuti ad affrontare quella che è ormai, credo, conclamata crisi dei partiti, che li vede oggetto di una impressionante sfiducia popolare. E allora noi cominciamo a domandarci: servono ancora i partiti politici? C'è qualcuno che pensa di no, che pensa che vi possa essere una democrazia senza partiti, fatta di reti orizzontali, di mobilitazione, di intervento, di circuiti di affermazione di cittadinanza attiva, di sperimentazioni di democrazia locale. Ma noi riteniamo che questi movimenti, queste forme di partecipazione attiva dei cittadini che difendono, promuovono diritti, tutele sociali, bene comuni, costituiscono una ricchezza della democrazia, ma non possano in alcun modo esaurirla. E che senza veri partiti radicati nella società, ispirati a un proprio sistema di valori, portatori di una propria visione della società e del suo futuro, una democrazia fondata sul suffragio universale non possa funzionare. E che dunque si debba affrontare la questione di una riforma democratica dei partiti nel loro rapporto da un lato con la società e dall'altro con le istituzioni pubbliche. E partendo quindi dall'articolo 49 della Costituzione, al quale noi qui alla Fondazione Basso siamo molto affezionati per essere anche opera del nostro fondatore, ci siamo domandati quale legislazione sui partiti possa meglio realizzare quella possibilità per i cittadini, che è prevista come un loro diritto costituzionale, la possibilità cioè di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Il progetto che sottoponiamo adesso alla vostra attenzione intende proprio rispondere a questa domanda. E quindi la parola, in primo luogo, è a colui che ci ha proposto anche questa ipotesi di lavoro e questo progetto, il professor Luigi Ferraioli. Prego. Grazie. Sì, questo nostro incontro sì, insomma, questa nostra iniziativa nasce da una convinzione. Siamo convinti che oggi una vera questione costituzionale, che se non affrontata alle radici rischia di travolgere la democrazia rappresentativa, è precisamente la crisi radicale dei partiti, il crollo della loro capacità di coinvolgere i cittadini nella loro azione politica e di, appunto, essere quegli strumenti di cui parla l'articolo 49, attraverso i quali i cittadini possono concorrere a determinare la politica nazionale. E questa convinzione è rafforzata, tra l'altro, anche dalla mutazione in senso verticistico e tendenzialmente personalistico delle nostre istituzioni, che è avvenuta attraverso le riforme costituzionali in atto, in particolare la legge elettorale già approvata e l'abolizione del Senato. E questa consapevolezza è presente addirittura, mi pare, nello stesso governo, come risulta dal fatto, di cui parlano i giornali, che lo stesso governo, la stessa maggioranza, intende proporre una legge di riforma dei partiti. Non sappiamo quali saranno i contenuti di questa riforma, qui c'è l'onorevole Sposetti che peraltro ha già presentato un progetto. La nostra convinzione, la convinzione di molti di noi, è tuttavia che la crisi dei partiti è così radicale che una legge di attuazione dell'articolo 49 debba intervenire su una questione cruciale: l'attuale confusione di poteri tra partiti e Stato, tra partiti e istituzioni, e la restituzione dei partiti al loro ruolo di organi della società, a deputati per l'appunto ad organizzare la rappresentanza politica sul territorio, che è una funzione molto diversa dalle altre tante forme di impegno e di militanza politica. Lo diceva già Elena, formulando la prima questione, il primo quesito che affronteremo nei nostri seminari: e cioè se una democrazia fondata sul suffragio universale possa fare a meno dei partiti. A mio parere occorre distinguere radicalmente tra forme della militanza politica, le forme dell'impegno e della partecipazione alla vita politica e le forme dell'organizzazione sociale e della rappresentanza. La militanza e la partecipazione alla vita politica ovviamente avviene in molteplici forme, i movimenti di protesta, le tante associazioni di volontariato, i movimenti che si mobilitano su temi specifici come la pace, come l'acqua, il reddito di cittadinanza, la salute, la scuola. C'è però una questione, un ruolo che solo i partiti, in quanto organizzazioni che si candidano alle elezioni delle istituzioni rappresentative, può svolgere e che non può svolgere da nessun altro tipo di organizzazione, e cioè il ruolo di organizzare sul territorio la rappresentanza politica, e cioè le forme stesse della democrazia rappresentativa. Ebbene, questo ruolo di mediazione tra società e Stato, io credo che, questo credo che rifletta un'opinione diffusa, è stato in gran parte messo in crisi o dissolto dal processo sviluppatosi progressivamente di statalizzazione dei partiti. Il fenomeno non è soltanto italiano, credo che sia un fenomeno che investe tutti i paesi europei, i paesi non solo dell'Europa ma anche i paesi occidentali. Qui c'è il professor Tavares che mi diceva dello stesso problema che si propone per esempio in Brasile, e cioè il fatto che i partiti si sono progressivamente identificati con lo Stato, e il problema è particolarmente rilevante in Italia, dove i partiti hanno fondato la democrazia e ne sono stati i principali garanti per parecchi decenni, e perché questa perdita di radicamento sociale oggi, in presenza anche di queste riforme istituzionali, rischia di annullarne questo ruolo di mediazione rappresentativa con la società. È utile ricordare che in Italia una legge di attuazione dell'articolo 49 non fu mai emanata per ragioni più che fondate. In primo luogo perché i partiti di allora, all'indomani della liberazione, erano partiti formatesi nella lotta antifascista, i cui esponenti venivano dalle prigioni, dalla resistenza, che certamente non avevano scelto la vita politica per interessi personali e la cui autonomia quindi era un fatto assolutamente acquisito. E in secondo luogo il timore, altra ragione fondamentale, soprattutto del Partito Comunista, è che una legge di regolazione dei partiti sulla base del carattere democratico avrebbe potuto, come del resto è avvenuto in Germania, la legge di attuazione dell'articolo 53 e dell'articolo 13 della legge fondamentale avrebbe potuto comportare l'esclusione del Partito Comunista dalla competizione politica. Quindi un rifiuto di qualunque legislazione a garanzia dell'autonomia dallo Stato dei partiti e contro possibili tentazioni antidemocratiche era più che fondata. Oggi ovviamente queste ragioni non hanno più nessun fondamento, ovviamente non ha fondamento il timore della discriminazione comunista, ma soprattutto si è provocata una utilizzazione dell'autonomia dei partiti non tanto per difendere il loro radicamento sociale, la loro separazione dalle istituzioni, quanto piuttosto al contrario per statalizzarsi. È crollata simultaneamente la credibilità dei partiti, è cresciuta l'astensione dal voto, ma è anche cambiata la qualità del voto. Oggi si vota soprattutto in dissenso, si vota per le liste meno penose, meno disgustose, in difesa degli equilibri democratici per il partito da cui ci si sente meno distante. Non è più il voto militante che caratterizzava in passato la militanza politica. Ed è mutato radicalmente il sistema politico dei vecchi partiti dell'arco costituzionale, l'unico rimasto è sostanzialmente il Partito Democratico, si sono appunto sviluppati partiti azienda, partiti marchio, partiti comunque personalizzati, è crollato il numero degli iscritti, il ruolo delle organizzazioni di base, sono tutte cose che sappiamo, è cresciuto il numero di quanti non si iscrivono ai partiti, e quanti si iscrivono, purtroppo si iscrivono sempre più per interessi personali, far carriera o comunque avere rapporti con il mondo, per l'appunto, della politica e quindi i fenomeni di corruzione che tutti ben conosciamo. Il risultato è un abbassamento della qualità della classe politica, reclutata non più attraverso le forme trasparenti del dibattito di base, quanto soprattutto attraverso rapporti clientelari o comunque extrapolitici. E il secondo fenomeno è, diciamo, il crollo, comunque l'abbassamento dello spirito pubblico e del senso civico, la sfiducia nei partiti, l'astensione, il pessimismo, insomma tutti fenomeni che hanno a che fare con il venir meno dei presupposti sociali della rappresentanza e quindi della democrazia politica. Ecco, è su questa base che noi vorremmo aprire un dibattito sulla crisi dei partiti e sulle possibili garanzie che possiamo e che dovremmo introdurre a garanzia dei diritti politici. Stranamente, i diritti politici sono gli unici diritti per i quali non sono state tematizzate le garanzie, e garanzie che sono costituite per l'appunto dalla legge elettorale, ovviamente, ma anche dalla democrazia interna, la tutela del dissenso, la tutela del pluralismo politico all'interno dei partiti, il primato, per così dire, e le forme democratiche della formazione della volontà dei partiti attraverso, diciamo, il primato delle organizzazioni di base. E allora io credo che il primo quesito da cui partiremo nei nostri seminari, ne abbiamo progettati tre prima di arrivare ad un convegno che pensiamo di organizzare alla fine dell'anno, comunque all'inizio dell'anno prossimo, è precisamente se i partiti sono ancora necessari. E noi siamo convinti, lo diceva Elena Paciot, che senza avere i partiti, una società fondata sul suffragio universale, una democrazia non può funzionare, che, come diceva Kelsen, l'ostilità verso i partiti è quasi sempre associata ad un'ostilità verso la democrazia rappresentativa, e che la formazione democratica dei gruppi dirigenti non può avvenire nelle forme oscure della cooptazione, ma deve avvenire in quelle trasparenti del dibattito di base e della selezione dal basso. E che in presenza di questo processo di confusione tra partiti e sistema politico, la rifondazione dei partiti e la loro autonomia dalle istituzioni non può più essere affidata alla loro autonomia, ma richiede oggi l'eteronomia della legge statale. L'eteronomia della legge a garanzia precisamente dei diritti politici sui quali si basa la democrazia rappresentativa. Certamente una legge non basta, non ci facciamo illusioni, ma una legge è quantomeno necessaria, una legge che imponga uno statuto che abbia alcuni requisiti minimi, una prima parte che definisca, per così dire, come nelle Costituzioni, i valori a cui il partito intende ispirarsi, che saranno diversi dai partiti di destra e dai partiti di sinistra, e soprattutto una seconda parte sulle regole di funzionamento dei partiti, e per esempio le regole sulle primarie, che dovrebbero evidentemente essere limitate degli iscritti, le varie forme di organizzazione della volontà del partito. Ma la questione più importante, sulla quale appunto vogliamo aprire la discussione, la norma più decisiva, a nostro parere, in grado di provocare una vera rifondazione dei partiti, è quella sulla separazione. Una separazione netta, mi rendo conto, è una proposta radicale che può sembrare provocatoria, l'incompatibilità tra cariche di partito e cariche istituzionali, per ristabilire la distanza e la differenza essenziale nella mediazione rappresentativa tra rappresentati e rappresentanti. In altre parole, soltanto attraverso una separazione di questa natura si può, diciamo, restituire i partiti al loro ruolo di organi della società, favorirne il radicamento sociale e soprattutto il ruolo di mediazione rappresentativa tra istituzioni e società, che è prevista per l'appunto dall'articolo 49. In secondo luogo, per evitare, dico tutte cose ovvie e tuttavia non scontate, per evitare i conflitti di interesse che si manifestano nelle autocandidature del ceto politico, le autocandidature dei dirigenti nelle varie forme della cooptazione e anche della selezione sulla base unicamente dei requisiti di fedeltà, forme di selezione che si stanno manifestando in questi anni di grande esaltazione della meritocrazia in una forma di selezione dei peggiori. In terzo luogo, per impedire la confusione dei poteri fra controllori e controllati e quindi per consentire la responsabilità degli eletti davanti agli elettori, davanti ai partiti. I partiti dovrebbero essere, tornare ad essere e comunque diventare i titolari delle funzioni di indirizzo politico e chiamare a rispondere per l'appunto i rappresentanti, gli eletti, rispetto ai programmi che dovrebbero viceversa avere la competenza a formulare. I partiti dovrebbero essere organi della società chiamati alla formulazione dei programmi, alla formulazione delle candidature, a chiamare a rispondere gli eletti, e questo consentirebbe anche un ricambio del ceto dirigente di carattere fisiologico, senza traumi. Un segretario di partito, che naturalmente è destinato a fare il Presidente del Consiglio qualora il partito vinca le elezioni, deve abbandonare il ruolo di segretario per lasciare il posto ad un altro segretario, ad un altro gruppo dirigente che naturalmente si forma all'interno del partito, che sarà in gran parte, diciamo, della stessa maggioranza, ma che ha un ruolo diverso, il ruolo per l'appunto sociale di organizzare la rappresentanza e di formulare, diciamo, di volta in volta l'indirizzo politico del partito. A me pare, tra l'altro, che qui si pone una questione teorica di fondo, una questione teorica che ha a che fare con il ruolo generale della separazione dei poteri. Concludo su questa questione. La separazione qui proposta non è altro che uno sviluppo della classica separazione dei poteri. Non dimentichiamo che la separazione dei poteri è stata formulata 260-270 anni fa, 1748, da Montesquieu, in presenza di un sistema politico completamente differente, come separazione tra i poteri dello Stato. Non è stata tematizzata, perché evidentemente non era assolutamente di attualità, né la separazione tra poteri pubblici, poteri statali e poteri economici, poteri finanziari, poteri che nell'ideologia liberale da Locke in poi sono sempre stati concepiti come libertà, che quindi non richiedono di essere né limitati né sottoposti a controllo, e per altro verso poteri sociali, diciamo, i poteri della società, che sono un aspetto, un tratto caratteristico della democrazia e che quindi evidentemente era completamente assente dall'orizzonte di Montesquieu del Stato di diritto settecentesco e ottocentesco. Ebbene, l'assenza di queste separazioni, l'assenza della separazione tra poteri statali e poteri privati economici da un lato, e l'assenza di una separazione tra poteri politici e poteri sociali dall'altro, in breve tra poteri pubblici e poteri extraistituzionali, ha provocato, anche in presenza appunto della globalizzazione e della simmetria tra il carattere globale dei poteri finanziari e il carattere sempre più ovviamente ancora locale del diritto e della politica, ha provocato un ribaltamento dei rapporti e della gerarchia fra questi poteri. A causa di queste mancate separazioni non sono più i poteri politici democraticamente eletti che controllano la finanza, l'economia, non c'è più una subordinazione dei poteri economici ai poteri pubblici, a cominciare dai diritti fondamentali, come sarebbe nella grammatica stessa della gerarchia delle norme, visto che i poteri economici hanno il loro esercizio in attività negoziali subordinati per ragioni di grado e di livello, a livello della legge, a livello della Costituzione, ma a causa del loro carattere globale sono sopraordinati ormai alla politica, a cui chiedono di eseguire i propri dettami, col risultato che l'esecuzione di tali dettami impone, insieme all'impotenza della politica rispetto ai mercati, una onnipotenza nei confronti della società e dei diritti dei cittadini. In altre parole, si è avuto un ribaltamento della gerarchia democratica dei poteri, che a nostro parere, che a mio parere, l'introduzione della separazione tra poteri sociali di legittimazione rappresentativa del sistema politico e poteri istituzionali potrebbe contribuire, potrebbe rappresentare il primo passo per un ribaltamento e una restaurazione di una gerarchia democratica dei poteri, rafforzando i partiti come i luoghi della formazione della volontà popolare. La separazione tra partiti e Stato restituirebbe ai partiti il loro ruolo, per l'appunto, di organi della società, facendone gli effettivi titolari, grazie al loro autonomo potere di formazione dei programmi, di selezione delle candidature, di organi chiamati a realizzare la responsabilità degli eletti, e sarebbero gli effettivi titolari di un potere effettivo di indirizzo politico che rafforzerebbe il ruolo delle istituzioni rappresentative, e in parte, in gran parte, mi rendo conto che queste non sono misure sufficienti, in gran parte a rafforzarli e autonomizzarli rispetto agli stessi poteri del mercato. Rispetto agli stessi poteri economici e finanziari, la forza e la legittimazione proveniente da partiti forti, da partiti appunto radicati nella società, credibili, in quanto non, la loro legittimazione non sarebbe inficiata dall'idea di un conflitto di interessi, delle autocandidature, delle carriere, perché ovviamente il ricambio inevitabilmente comporterebbe la sostituzione degli eletti con un nuovo personale dirigente, restituirebbe ai partiti quella forza che nei momenti migliori i partiti hanno avuto. Pensiamo ai primi anni della nostra Repubblica, il ruolo dei grandi partiti di massa. Certo, proposte di riforma come queste hanno il difetto di contrastare radicalmente gli interessi immediati degli stessi vertici del sistema politico che dovrebbero porli in atto, e tuttavia io penso che nei tempi lunghi dovrebbe essere nell'interesse degli stessi partiti rifondare la loro legittimazione come condizione della loro stessa sopravvivenza. Come è noto, la paternità dell'articolo 49, così come dell'articolo 3, è proprio di Lelio Basso. E connessa ai principi dell'articolo 3 è la disposizione, appunto, è l'articolo 49, che, come ha scritto Rodotà, per la prima volta fa entrare in una Costituzione, la nostra, il soggetto partito politico, predisponendo gli strumenti specifici della concreta partecipazione dei cittadini. L'articolo 49 è altrettanto connesso, d'altra parte, con l'articolo 1 del testo costituzionale, dal quale è anzi inscindibile. Sarà lo stesso Basso, nel corso degli anni, anche negli anni 60-70, che avrà più occasioni di mostrare vanto di questo articolo, e negli anni 70 affermerà che la nostra Costituzione è stata la prima Costituzione occidentale che ha inserito i partiti, cioè che ha fatto sì che i partiti non fossero più semplici associazioni private, ma ha attribuito loro uno status costituzionale come momento essenziale di vita democratica, tramite indispensabile fra il popolo sovrano e gli organi dello Stato. Anche in anni successivi, l'autore dell'articolo 49 riconoscerà un ulteriore elemento di inscindibilità delle due disposizioni, cioè articolo 1 e articolo 49. Secondo Basso, infatti, e in questo riprenderà il già citato Kelsen, se tutti i cittadini si possono associare in partiti per determinare la politica nazionale, significa allora, scriverà testualmente, che la politica nazionale non è solo determinata dai grandi partiti di maggioranza, ma anche dai partiti di opposizione, perché sono tutti i cittadini, quindi tutti i partiti, che determinano la politica nazionale. In questo senso, si trattava anche di un periodo storico particolare, Basso riconoscerà anche all'opposizione la possibilità dell'esercizio della sovranità. E per questo dirà che l'articolo 49 si ricollega all'articolo 1, secondo cui la sovranità appartiene al popolo tutto. Vediamo qual è la genesi di questo articolo. Nei lavori dell'Assemblea Costituente, Basso costituisce, come ha scritto Mariuccia Salvati, il ponte più evidente tra il dibattito sulla sovranità popolare e quello sul diritto di associarsi in partiti, i quali rappresentano la più autentica espressione, appunto, della sovranità popolare. Come egli espliciterà nella discussione generale finale svoltasi in Assemblea Costituente, il cittadino che vuole veramente partecipare all'esercizio della sovranità popolare lo può fare ogni giorno attraverso la vita del suo partito. Tramite una partecipazione all'organismo politico cui aderisce, il cittadino è in grado di controllare giorno per giorno, di influire sull'orientamento politico del suo partito e attraverso questo sull'orientamento politico del Parlamento e del Governo. Tramite la vita dei partiti si celebra così un esercizio quotidiano della sovranità popolare, essendo i partiti la più alta espressione, dirà sempre Basso, della democrazia, perché consentono a milioni di cittadini di diventare ogni giorno partecipi della gestione politica della vita del Paese. Queste parole lasciano trasparire in modo evidente il nesso che citavo prima tra articolo 49, articolo 1 e articolo 3. Con questa convinzione, Basso, come costituente socialista, aveva presentato pochi mesi prima una proposta in prima sottocommissione destinata a incontrare il consenso delle altre forze politiche, la quale era anche d'altra parte il retaggio di una sua elaborazione precedente, risaliva cioè, poi lo vedremo, agli anni 30. Nella seduta del novembre 46 si confrontano due formulazioni, una che è dei relatori Mancini, socialista, e Merlin, democristiano, e l'altra che è di Basso. In particolare, quella dei primi due recita: i cittadini hanno diritto di organizzarsi in partiti politici che si formino con metodo democratico e che rispettino la dignità e la personalità umana secondo i principi di libertà e uguaglianza. Le norme per tali organizzazioni saranno dettate con legge particolare. La seconda, che è quella di Basso, afferma: tutti i cittadini hanno diritto di organizzarsi liberamente e democraticamente in partito politico, allo scopo di concorrere alla determinazione della politica del Paese. E ancora, ai partiti politici che nelle votazioni pubbliche abbiano raccolto non meno di 500.000 voti, sono riconosciute fino a nuove votazioni attribuzioni di carattere costituzionale, a norma di questa Costituzione, delle leggi elettorali e sulla stampa e di altre leggi. La redazione presentata dai primi due, cioè da Merlin e Mancini, che è poi quella che non passa, incontra da subito l'opposizione dei comunisti, come ci ricordava il professor Ferraioli, in particolare di Togliatti e Marchesi, ostili a una proposta che potesse fornire pretesto per l'appunto a misure antidemocratiche e spaventati della possibilità di introdurre un principio con il quale sarebbero stati i governi a intervenire nel funzionamento dei partiti. La formulazione di Basso invece trova maggiore consenso, diventando poi nella sua prima parte il futuro articolo 49. Maggiore discussione si avrà invece sulla seconda parte della proposta di Basso, quella che appunto parlava del riconoscimento costituzionale. Con esso, con questa seconda parte, Basso intende affermare il principio del riconoscimento ai partiti di attribuzioni di carattere costituzionale, il quale rappresenta a suo parere una specie di avviamento a superare tutte le forze di tipo puramente individualistico antiquato, con una nuova concezione di democrazia dei partiti. Per Basso questo articolo si inseriva in un evidente processo di trasformazione delle istituzioni democratiche, culminato nella sostituzione della tradizionale democrazia parlamentare con la democrazia dei partiti. In questo senso, rispondendo ad alcune perplessità della destra, egli aggiungeva che la sua proposta voleva affermare una nuova forma di democrazia, capace tramite partiti di eliminare i difetti del vecchio parlamentarismo, e diceva: questo nuovo sistema permette di superare il vecchio trasformismo dei tempi di De Pretis, impedisce il ripetersi delle crisi ministeriali e dà un maggior senso di responsabilità all'azione dei deputati e dei partiti. Nelle conclusioni, ma anche in altri interventi, nelle conclusioni della prima sottocommissione, vi è proprio il nocciolo della sua visione relativa al ruolo del partito. Un partito che non doveva occupare né la società né lo Stato, che lungo la via delle istituzioni doveva essere fattore costituente della società politica, senza mortificare nulla la società civile. In questo senso Bassa aveva escluso l'attribuzione di funzioni che sono proprie dello Stato e soprattutto aveva inteso i partiti quali fondamentali strumenti e garanti di una democrazia della partecipazione continua e permanente. Tuttavia la discussione nella prima sottocommissione si fermerà, ritenendo infatti che le norme sui partiti incidessero sull'ordinamento dello Stato e che pertanto invadessero le competenze della seconda sottocommissione, venne approvato un ordine del giorno, che era quello di Dossetti, di rinvio. E quindi appunto in quest'ordine del giorno si diceva: la prima sottocommissione ritiene necessario che la Costituzione affermi il principio del riconoscimento giuridico dei partiti e dell'attribuzione ad essi di compiti costituzionali, rimandando invece a un esame comune con la seconda sottocommissione parte delle condizioni e delle modalità. È di grande rilievo quanto lo stesso Basso afferma sulla prima parte di quest'ordine del giorno, che lui respinge. Egli infatti si dichiara contrario a quest'ordine del giorno, ritenendo ambigua la formula del riconoscimento giuridico, che si presta, scrive, a essere interpretata come riconoscimento della personalità giuridica, da lui ritenuto non essere tema costituzionale. Egli insiste affinché così sia sostituita la formula del riconoscimento di funzioni costituzionali all'altra, a parere troppo ampia, e ribadisce che quando si attribuiscono ai partiti funzioni costituzionali è implicito anche il riconoscimento giuridico, per quel tanto che è necessario all'esercizio di dette funzioni. Negli anni successivi, soprattutto dicevo negli anni 60 e 70, Basso, nell'escludere qualsiasi regolamentazione giuridica generale, esclude ogni forma di controllo di nuovi interventi dell'autorità pubblica nella vita interna dei partiti, riaffermando la natura storica dei partiti come libere associazioni che nascono sul terreno della società civile. Al tempo stesso egli avrebbe ricordato i diritti specifici che spettavano e andavano riconosciuti ai partiti, al fine di facilitare l'adempimento della funzione riservata a essi dalla Costituzione: tutelare la libertà contro gli abusi dell'esecutivo o contro eventuali illegittimità costituzionali del legislativo, assicurare l'uguaglianza effettiva dei partiti. Questi dovevano essere i compiti principali della legge. Basso ribadiva così lo status costituzionale di cui i partiti godevano, opponendosi con forza a qualsiasi tentativo di controllo statale. La riunione congiunta a cui aveva rinviato l'ordine del giorno che dicevo prima di Dossetti non avrà luogo, e la seconda proposta di Basso non troverà posto nel testo presentato poi alla fine in assemblea costituente, in seno al quale si svilupperà un ulteriore vivace dibattito a partire dalle interpretazioni da darsi alle due espressioni che c'erano di liberamente e democraticamente. Così i partiti verranno collocati nel titolo quarto e entreranno alla fine nella Costituzione per la via maestra, e l'articolo 49, rimasto in parte incompiuto, codificherà il sistema politico italiano come una democrazia di partiti. Basso continuerà a sostenere e a inverare la propria concezione della democrazia fondata sui partiti come forma superiore di un sistema democratico, giungendo anche a esprimersi in modo molto critico nei confronti di una generica e incontrollata democrazia diretta, ossia di un perpetuo potere costituente affidato a un generico spontaneismo collettivo. Egli anche al tempo stesso però continuerà a richiamarsi alla necessità di realizzare una molteplicità di centri di potere autonomi a partecipazione popolare e a gestione democratica, sia a livello locale sia a livello delle strutture sociali, ponendo l'accento sulla necessità di garantire agli utenti l'autogestione dei servizi sociali fondamentali. Il difficile e controverso equilibrio tra l'assoluta fiducia in una democrazia di partiti e l'anima centralista, che poi era quella di matrice lussemburghiana, avrebbe animato molti dei suoi scritti successivi. Si arriva alle conclusioni. Le ragioni che spingono Basso a proporre l'inserimento nella Costituzione di un testo come quello dell'articolo 49 sono connesse anche a una peculiare concezione dell'ordinamento giuridico nella nuova fase, così come affondano le loro radici in quel dato di Costituzione materiale rappresentato dal nuovo ruolo assunto dal partito negli anni 30. Qui appunto non mi soffermo su tutte le considerazioni in cui Basso riprende anche Kelsen, e aggiungo direttamente alle conclusioni. In particolare Basso appunto diceva proprio quell'articolo 49 si era inteso indicare un processo democratico che dalla diversità, dalla eterogeneità, dal contrasto, dalle differenze che sono all'interno del popolo sovrano si doveva poi arrivare alla formazione proprio di una volontà unitaria e generale. Riprendendo le elaborazioni più avanzate alle quali era giunta la dottrina costituzionale a cominciare dagli anni 30, ma anche sulla scia della propria attività politica, Basso fa dell'articolo 49 il risultato del suo impegno nelle sedi sia istituzionali ma anche nei luoghi concreti della società civile. Egli giunge così a conclusioni simili a quelle espresse da altri noti costituenti e giuristi, trovando un terreno d'incontro nella consapevolezza del nuovo ruolo del partito nella relazione tra società è stato. La scelta fatta in assemblea costituente riprenderà infatti un filo che è il filo che già si era dipanato appunto ne dicevo negli anni 30, quando assume una forte centralità una nuova forma di partito concepita sulla base di un'inedita concezione istituzionale nella sua funzione unificante e mediatrice e quindi costituzionale. La novità prodottasi tra le due guerre riguarda un'inedita natura del partito di cui Basso medesimo si era reso ben consapevole molti anni precedenti, cioè in particolare negli anni 30. Concludo, come per il termine persona, che entra appunto dentro il testo costituzionale, anche in questo caso si tratta di un'anticipazione della scelta compiuta al momento della redazione del testo costituzionale, allorquando, sconfitto il fascismo, si fa strada all'esigenza di progettare un nuovo ordine democratico fondato sulla centralità di questi nuovi strumenti. Come ha ben spiegato Pietro Costa, storicamente, la nuova forma partito, pur affondando le proprie radici negli anni 30 e tenendo conto del rilevante salto compiuto da un sistema fondato sull'unicità del partito a uno incentrato sulla pluralità dei partiti, manterrà intatta la forza esplicativa dello schema teorico sul quale originariamente si fondava nel nuovo contesto politico democratico repubblicano. Grazie a Chiara Giorgi per questo excursus storico. Adesso la parola è a Mattia Diletti, che ci indicherà i passaggi attraverso i quali vorremmo concludere il nostro progetto. Prego. Sì, grazie. Io sarò brevissimo perché non devo svolgere nessuna relazione, devo solo illustrare quali saranno quale sarà il percorso del gruppo di lavoro che si costituisce oggi, che nasce oggi. Ovviamente non arriviamo, diciamo, a questa giornata senza che ci sia stato già un enorme dibattito sui partiti in Italia, nel senso che negli ultimi anni, se contiamo i libri che sono usciti su questo tema, ne contiamo un'enormità, solamente che è il momento che ci costringe ad approfondire il tema, nel senso che abbiamo in Parlamento forze che sono state elette senza nemmeno avere uno statuto democratico, c'è in ballo la discussione, la questione di cosa voglia dire essere una formazione capace di rappresentare in Parlamento, e allo stesso tempo ci sono riforme istituzionali di rilievo in discussione, c'è stata una riforma elettorale altrettanto di rilievo, e l'agenda politica preme, nel senso che credo che a breve la questione dell'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione possa divenire effettivamente tema politico di discussione, di dibattito in Parlamento. Quindi non so, visto che, come dire, non mancano né le idee né le persone per affrontare questo tipo di lavoro, vedremo anche se eventualmente violentare un po' la nostra agenda di lavoro nel caso le questioni, come dire, precipitino e ci costringano a velocizzare o a cambiare i tempi o a fare dei passi laterali. Sta di fatto che il nostro primo appuntamento sarà di qui a breve, verso la fine di giugno, un appuntamento che cercherà in una giornata, cercheremo di sintetizzare tutto il dibattito che c'è attorno, la banalizzo un po', all'essere pro o contro la funzione del partito come associazione attorno ai quali i cittadini si riuniscono per costruire, avere la funzione per, dotarsi di, per avere uno strumento per dotarsi di funzioni di indirizzo politico. Il metteremo insieme le persone, sono tante, alcune non anche, partecipano anche al dibattito della fondazione, che fino a in questi anni hanno sostenuto il sostanziale superamento della funzione dei partiti come strumenti per la rappresentazione della volontà popolare. Sostanzialmente noi abbiamo ormai un'esperienza decennale di tecnologie che permettono di far partecipare la popolazione ai processi decisionali, sia nella dimensione micro che in dimensione anche di livello superiore. Pensate anche che tipo di esperimento, poi cioè, si può dare il giudizio che si vuole, era stato immaginato per esempio nel caso della buona scuola, no? Che doveva essere sia tramite le tecnologie, non sto dando giudizi sul risultato, sia tramite le tecnologie che che anche un'attività diretta di rapporto col mondo della scuola, teoricamente doveva essere uno strumento di preconsultazione in vista della costruzione di un disegno di legge. Sostanzialmente si è rafforzata l'idea che anche, soprattutto grazie alle piattaforme tecnologiche che si hanno a disposizione, si possono costruire questo rapporto diretto tra istituzioni e cittadini, sempre perché c'è anche una forte diffidenza in questo senso, anche da chi una forte diffidenza verso i partiti in quanto strumento di coagulo per la forza di alcune oligarchie che non permettono una vera rappresentazione delle posizioni in campo, eccetera, eccetera. Questo tipo di retorica, questo tipo di discorso ha fatto breccia anche all'interno degli stessi partiti, tant'è che ormai siamo ad una fase matura dell'utilizzo delle primarie, che sono state proprio un argomento retorico per sostenere che i partiti devono essi stessi trovare gli strumenti per rompere il muro che li separava con la società. E quindi utilizzando uno esperimento americano vecchio di un secolo, che è nato esattamente con la stessa idea, si è sperimentato lo strumento in Italia in modo anche un po' rocambolesco, non normato, in modo, insomma, ogni tornata di primaria sembra, come dire, un esercizio di fantasia su come debba utilizzarsi questo strumento, che evidentemente andrebbe anch'esso normato attraverso una legge di tipo nazionale. Quello che vogliamo fare nel primo appuntamento è mettere insieme, diciamo, queste due voci e confrontarle con chi sostiene invece che sostanzialmente i partiti siano quello che debbano essere quello che rappresentava Luigi Ferrajoli, ma non soltanto. Cercheremo anche di discutere in questa giornata non solo sulle ragioni teoriche della rappresentanza, della funzione dei partiti, ma anche sulla loro capacità di ricostruirsi come organizzazione. Fino ad oggi c'è stata una fortissima banalizzazione in questa immagine di contrapposizione tra partito liquido e partito pesante, tra partito leggero e partito pesante. Sono pochissime le sperimentazioni che sono state fatte per cercare di capire cosa voglia dire aggiornare uno strumento del genere al XXI secolo. Non sto qui a dilungarmi perché e per come bisognerebbe aggiornarli, quali sperimentazioni sono state messe in campo, però il punto non è solamente ragionare delle questioni appunto teoriche, ma anche capire quali siano stati effettivamente i tentativi di rivitalizzazione di questo strumento. Quindi cercheremo di trovare una sintesi e fare, come dire, abbiamo una giornata come quelle che si fanno, insomma, una giornata di deliberazione, discussione, cercheremo di trovare un minimo comune denominatore per poi procedere verso le due tappe di lavoro successive, che saranno l'attivazione di un gruppo di lavoro che si occuperà esclusivamente di osservare cosa accade negli altri paesi, anche dal punto di vista statutario, per vedere come sono normati i partiti negli altri paesi, osservare quali caratteristiche hanno gli statuti degli altri paesi, nel senso che credo che nell'idea di Luigi sia anche quella sostanzialmente di immaginare cosa vuol dire costruire uno statuto, non solamente normare la funzione dei partiti. Quindi costruiremo un secondo appuntamento basato sul lavoro di questo gruppo che ci spiegherà cosa accade negli altri paesi, e il terzo filone di lavoro sarà quello che riguarderà la strutturazione di una proposta di legge di attuazione dell'articolo 49. Ripeto, i tempi, i modi cercheremo di adeguarli al dibattito politico che si svolgerà in questi mesi, Io mi fermerei qui, nel senso che immagino che ci sia volontà di reagire alle proposte di Luigi Ferraioli, le relazioni sue di Chiara Giorgi, e penso e spero che il gruppo, anche parte delle persone che saranno qui presenti, ci accompagneranno anche nel percorso di costruzione di questi gruppi di lavoro. E adesso apriamo la discussione. A me spiace vedere che ci sono persone in piedi là in fondo, non so se è possibile portare qualche seggiola qua e far sedere un po' tutti. Scusa caro Bernardini, ma avevo visto prima una mano là alzata e credo che Ugo Sposetti voglia intervenire, e poi Carlo Bernardini. Prego, temo che debba venire qua perché non abbiamo la registrazione. Prego, Ugo Sposetti, prego. Ci sono anche altri, ma nell'ordine, parleranno tutti, abbiamo tempo. Grazie molto dell'invito. E ho ascoltato con molto interesse le relazioni e anche qualche, diciamo, qualche provocazione che è stata fatta a proposito di come deve essere un partito, che cosa pensiamo che debba essere in questa fase della democrazia. Io mi sono appuntato che in questa democrazia, ascoltando il professor Ferraioli, questa democrazia non ha bisogno di questi partiti. Diciamo, gli ultimi decenni, diciamo, siamo andati avanti per approssimazione e cancellando la garanzia dei diritti politici. Perché se noi guardiamo iscritti ai partiti negli ultimi 20 anni, 30 anni, se noi guardiamo la partecipazione al voto, diciamo i cosiddetti voti validi, dal 79 al 2013 noi abbiamo una picchiata. E il punto vero, quindi, io mi sono appassionato alla lettura dei vostri libri, delle vostre relazioni, il punto vero ritengo che sia quello di come la politica, la società, diciamo, lasciamo perdere la politica perché sennò ci impasticciamo nel pensare che cosa sia la politica. Come la società italiana risponde a questi due aspetti negativi. Il calo forte della partecipazione alle elezioni e la stanchezza, la chiamo così, di quelli che avrebbero la volontà di partecipare a una vita di partito, una vita organizzata. Ora, io mi auguro che il calendario che vi siete dati debba essere modificato, perché oggi per noi l'urgenza, dopo l'approvazione della legge elettorale, è capire come si formano le liste, perché altrimenti io provocato da un giornalista ho risposto che per formare le liste al prossimo appuntamento per le politiche ci vorranno i caschi blu, perché immaginate dopo quello che è successo per le elezioni regionali come si stabiliscono i capilista nei 100 collegi usciti dalla norma approvata dal Parlamento. La reazione del territorio, anche di quelli che pensano di stare all'interno del partito, sarà una reazione violenta, così se osserviamo quello che è successo in 3 o 4 regioni che vanno al voto il 31 di maggio. Allora io ritengo che questa sia una priorità. e io vedo delle novità. Sono, diciamo, non penso di essere eccessivamente ingenuo, però sono un ottimista. Vedo delle novità in che cosa? Nell'intervista del segretario del PD Renzi, rilasciata a marzo all'Espresso, il settimanale Espresso, che una settimana dopo che si è tenuto un seminario organizzato dal PD, dove in quel seminario si è discusso del partito come un comitato elettorale, il partito serve solo per le elezioni. Nell'intervista il segretario del PD dice: ma no, io pensavo che si potesse fare come il partito americano, il partito leggero, però ho capito che ci vuole un partito radicato nel territorio. Il dibattito della società italiana è stato zero. Il partito, anche all'interno del mio partito, io rimprovero quelli che quali sono stato insieme tanti anni, perché se il segretario dice questa cosa io ci salgo sopra, cioè, tac. La scorsa settimana il segretario ha rilasciato a Repubblica.it e è ritornato sull'articolo 49. Penso che non sia sfuggita ai presenti attenti a questa tematica che Repubblica, io dico, ha cambiato. Detto da me è un'eresia, però devo prendere atto che l'articolo di fondo di Claudio Tito di sabato mattina è un articolo che finalmente in un quotidiano nazionale, uno dei primi, se non il primo, pone un problema: come la democrazia italiana si organizza e affronta l'appuntamento, perché l'appuntamento delle elezioni è fondamentale, non è che per la vita di... Quindi noi dobbiamo fare in modo che ci sia, secondo me, degli osservatori, perché fino adesso non c'è un intellettuale, diciamo, di quelli che hanno audience, che scrivono, che possono modificare e orientare, non c'è stato in questi ultimi anni. Ci sono stati scritti tanti saggi e tanti, ma l'intellettuale, diciamo, quello che ha il più, io ce ne sono diversi, ma il commentatore politico non hanno scritto su queste cose. Se vedo quel giornale, beh, allora questa è una strada che possiamo spingere, perché il punto quale, e vado rapidamente a concludere, il punto è riconoscimento giuridico del partito. Chi ha fatto il mio lavoro sa che senza riconoscimento giuridico del partito è un dramma gestire le cose del partito, è un dramma. Dal simbolo e via discorrendo. Ora il Parlamento no, non è che non abbia fatto nulla, perché nel 2012 e nel 2013 il Parlamento, quando ha affrontato quella vergogna della cancellazione del, che io considero vergogna, ma insomma naturalmente magari sono in assoluta minoranza anche in questa sala, della cancellazione del finanziamento pubblico, perché quella è la cesura vera alla democrazia italiana, fatta per decreto legge senza che nessuno si ribellasse, senza che nessuno si ribellasse. Quello, però il Parlamento, quando ha reso quella parte residua del finanziamento, ha detto: tu partito non puoi accedere a queste agevolazioni se non hai uno statuto, se non hai delle regole interne, ma sono legate, diciamo, settoriali. Nella legge elettorale c'è un tentativo di dire: tu partito, diciamo, la proposta è stata presentata al sottoscritto, perché diciamo sono sempre là in agguato, cioè è stato presentato al sottoscritto e all'inizio erano sia il governo che la maggioranza erano contrari, ma viva Dio l'Aula ha approvato praticamente all'unanimità. C'è. Tu partito, se ti presenti, devi avere uno statuto. Cioè, e quindi siamo, diciamo, siamo leggermente... Io vedo sempre la parte del bicchiere mezzo pieno, perché se no se lo vedo mezzo vuoto, vado... Allora, questo è... Noi dobbiamo completare questa parte dell'articolo 49. E oggi non possiamo non normare le primarie. Ci può essere una discussione se sono obbligatorie o volontarie. Il mio testo, che io vi lascio alcune copie, il mio testo, le primarie volontarie. Però il Parlamento potrebbe scegliere, e mi auguro che ci sia questa discussione, potrebbe scegliere per l'obbligatorio. Guardate, le primarie obbligatorie, sembrerà strano, ma in Argentina il 9 di agosto, si terranno le primarie in vista delle elezioni politiche che si terranno in autunno in quel paese, il 9 di agosto del 2015. Quindi se altri lo hanno già fatto, non vedo perché noi dobbiamo fare. Il problema, come diceva Diretti, è chi partecipa alle primarie. Per me è una cosa banale, è una cosa banalissima. Chi partecipano? Quelli che sono iscritti nelle liste elettorali, in quel collegio, in quel seggio elettorale. Io vi racconto e poi mi chiudo. Io sono andato per curiosità mia personale alle primarie in Francia tra Hollande e Martine Aubry. Sono andato a vedere il ballottaggio, quando hanno fatto il ballottaggio. Beh, ho accompagnato, hanno fatto diversi seggi elettorali. I seggi elettorali erano nella sede dove normalmente i francesi partecipano al voto. L'urna era quella di Plexiglas, trasparente, il seggio era formato dal Partito Socialista, naturalmente, erano tre del Partito Socialista, e votavano quelli che erano iscritti nelle liste elettorali consegnate dall'ufficiale del comune che la sera le ha ritirate e ha bruciato il registro per la privacy. Ho capito che è avvenuta questa cosa. E ho pure assistito a una cosa che in Italia avrebbero chiamato le televisioni, che una vecchia militante del Partito Socialista francese, trasferita dalla sua normale residenza a Parigi, alla periferia di Parigi, a casa del figliolo, ma non ancora iscritta in quel seggio elettorale, questa vecchia militante socialista non ha potuto votare e non si è ribellata, perché quelle erano le regole, non si è ribellata. Quindi è una cosa, io vedo, cioè, votano chi votano? Votano quelli che votano per quella consultazione elettorale, cioè gli iscritti nelle liste elettorali. Naturalmente voi avete fatto una convocazione molto interessante e spero che di poter essere presente quando si terranno gli altri incontri. Mi auguro, invertiti dall'ordine che avete dato, che siate costretti a dire ci sia un testo dell'articolo 49, perché io mi auguro che anche il Partito Democratico presenti una sua proposta, perché è chiaro, se non la presenta il Partito Democratico il Parlamento non discuterà, non discuterà mai. Grazie. Grazie a lei. Ho già tre iscritti a intervenire, poi chi altro vuole lo prego, professor Bernardini. Forse li avviciniamo il li avviciniamo il... Grazie. Grazie. Arriva? Sì, dovrebbe arrivarci. Mi sentite? Vi chiedo scusa se intervengo pur venendo da un settore lontano dell'umanità, che è quello delle scienze fisiche. Io per ragioni professionali sono, come dire, un fenomenologo della realtà, cioè cerco di capire i fatti per capire che cosa l'umanità è disponibile a fare attraverso i fatti. E quindi, se volete, leggo con un occhio particolare la storia. E nella storia trovo l'embrione di quelli che oggi chiamiamo partiti nelle cose più diverse. La cosa che mi ha colpito di più è che l'embrione più smaccatamente ripugnante è la storia della religione, la storia delle religioni. Perché le religioni hanno commesso sin dall'inizio questo errore gravissimo che ha generato tutti i conflitti del mondo, che è quello di dividersi in culti. È pazzesco. Questo vuol dire semplicemente che l'umanità, la maggior parte dell'umanità nella sua cultura non ha capito niente di come si può collaborare per gestire un potere di pubblico interesse, perché i culti, ciascuno dei culti coltiva se stesso e non un'idea generale di interesse pubblico. Gli inglesi hanno una bella parola per definire che cosa sono i servitori dello Stato, i civil servants li chiamano. Civil servant è una bella espressione. Dovrebbe essere una persona che, un civil servant è una persona che lavora e vive per aiutare gli altri, per garantire la pace, eliminare i conflitti, per produrre collaborazioni che siano fruttuose collettivamente, da persone che vanno d'accordo fra di loro. Bene, tutto quello che leggiamo nella storia è esattamente il contrario di questo, è la continuazione di conflitti tribali da cavernicoli. E in questo momento viviamo in conflitti tribali che più tribali di così non potrebbero essere. Devo dire che non sono un entusiasta di Matteo Renzi, ma l'altra sera ha detto qualcosa che mi ha impressionato molto, perché è molto efficace. L'altra sera ha detto: è incredibile che la politica in Italia sia una battaglia per far vincere un cognome. Dovrebbe essere una battaglia per far vincere un programma, non un cognome. E si riferiva a Civati nel suo caso, per essere più espliciti, ma così è. Ora, io devo dire la verità, non vedo che ci sia alcuna tendenza in questa direzione. Ma perché? Appunto perché sono i partiti a gestire come si fa politica e non è la cultura umana nel suo significato più generale, cioè la cultura che classifica i fatti, ne discute, distingue con tutti quelli che sono fatti utili, fatti, insomma, ve lo potete immaginare da soli. Anzi, mi meraviglio che questo modo di pensare non sia più diffuso di qualunque altro, perché dovrebbe essere spontaneo che tutti gli umani pensano al bene e non al male, e invece assolutamente non è così. Passiamo le giornate soltanto a pensare al male e a aprire delle televisioni che ci parlano dei 7 assassini del giorno, i 4 stupri, i 5 malmenamenti e così via. Si parla ormai solo di questo tipo di cose. Qui bisogna cambiare la cultura di base. Un'impresa forse troppo difficile, forse addirittura impossibile, ma se non cambiamo la cultura di base, se non si comincia coi bambini addirittura a definire che cos'è una cultura di base, appunto, pacifista, altruista e collaborativa, siamo fritti. Abbiamo tempo per farlo? Io probabilmente non più. Arrivato a questa età mi dispiace, però vorrei invitare chiunque fosse in grado di farlo a farlo. Grazie. Adesso la parola è al professor Azzariti, poi a quel giovane di cui non conosco il nome e quindi al professor Buciani. Domenico Gallo, poi. Allora, intanto io vorrei cominciare con un sentito, come dire, ringraziamento alla Fondazione Basso, perché una fondazione non strettamente legata a un partito, anzi non legata a nessun partito, porre oggi la questione di riflettere sui partiti non in base all'ideologia antipartitica imperante è coraggioso e opportuno. Certo, è anche forte e radicale la proposta della separatezza che Luigi Ferraioli ci ha illustrato, credo che lui stesso abbia detto al limite della provocazione. Beh, in effetti una separatezza così netta come quella che ci è stata illustrata è in un contesto attuale al limite della, della provocazione, però di una sana provocazione su cui riflettere. Io voglio dire poche cose in modo anche disordinato e me ne scuso, ma reagisco così istintivamente a quello che ho sentito. Anzitutto credo che per riflettere, per ritornare a riflettere sui partiti politici in un clima antipartitico è necessario allargare lo sguardo all'immediatamente rilevante, perché se noi in qualche modo siamo soprattutto una fondazione, ma comunque noi società civile o noi non so chi, continuiamo a riflettere sulle crisi interne dei partiti e non ne usciremo vivi, anche perché ho l'impressione che i partiti, ahimè, o ai loro, o ai noi, ci stiamo tutti avvitando in una difficoltà di guardare lontano, e allora alzare un attimo lo sguardo all'immediatamente rilevante è opportuno. E cosa c'è, a mio modo di vedere ovviamente, oltre l'immediato? Beh, c'è andare all'origine della crisi dei partiti, che non è, credo che Luigi sia d'accordo, ma non è tanto, come dire, il fatto che i partiti operino all'interno dello Stato. Lo Stato dei partiti in quanto tale è una categoria che nel Novecento ha avuto un suo ruolo positivo. Anzi, a dirla tutta, all'articolo 49 della nostra Costituzione, l'articolo 49 della nostra Costituzione in qualche modo impone una partecipazione, un intervento dei partiti nello Stato, concorrere alla politica nazionale. Io credo, almeno io così lo leggo, ma non solo io, vuol dire essenzialmente due cose: concorrere alla politica nazionale di carattere istituzionale, forse anche attraverso e tramite il Parlamento, che non può essere abbandonato. Poi torno, quando parlerò della separatezza, appunto su questo, ma il fatto che i partiti siano corresponsabili, politica nazionale, corresponsabili di attività parlamentari, io credo sia cosa buona e giusta. Si tratta di capire le modalità di concorso in parlamentare. Due, concorrere alla politica nazionale, io credo che voglia dire che i partiti devono essere ideatori, costruttori del futuro, si diceva un tempo, costruttori della politica nazionale. E questo è l'elemento più profondo di crisi dei partiti politici. Adesso non sto a fare tanti discorsi, più o meno li conosciamo, ma il fatto che i partiti politici abbiano perso, non voglio dire qualunque idealità, ma la capacità di costruire il futuro, è un grave fattore che i cittadini a concorrere, certamente i cittadini a concorrere, tramite i partiti politici. E quindi, voglio dire, questa capacità di costruzione tramite i partiti è un elemento ontologico dei partiti stessi. I partiti questo non fanno più, fanno poco, fanno molto poco. Perché, scusate la brutalità, ma per ragioni di tempo, perché molto spesso si limita a diventare gestori del potere. E qui c'è il punto di crisi. Cioè, all'interno dello Stato, senza idealità e senza capacità parlamentare, poi ritorno a spiegare meglio questo elemento, introduce uno strumento di mera gestione, beh, credo che in qualche modo il distacco da partiti politici è comprensibile, la crisi dei partiti politici è verticale, anche rispetto all'articolo 49. Direi di più, molto spesso si dice, finiti i partiti di massa, i partiti ideali e quant'altro, siamo ritornati all'Ottocento, ai partiti dei notabili. Io credo che sia sbagliata questa cosa che spesso si dice, perché la fine dei partiti di massa non ha portato a un ritorno dei partiti dei notabili, cioè quei partiti che servivano soltanto per l'organizzazione per l'elezione di alcuni notabili, appunto, nobili del un po' più lontano. Purtroppo i partiti, la parte degenerata ovviamente sto parlando, non faccio nessuna generalizzazione, ma le parti degenerata, in qualche modo i partiti si sono resi potentati locali, senza ideologia, in qualche modo ascritti ai blocchi di potere. È una degenerazione, però è una degenerazione inquietante. Non voglio alzare lo sguardo dal contingente, e quindi non voglio guardare alle discussioni che oggi leggiamo sui giornali, però è significativo che interi blocchi passino da una parte all'altra in modo indifferenziato. Io adesso mi cerco di trattenermi a fare riferimenti di attualità, però è un dato che si parla di, che è, cosentiniani che passano, insomma, non sono più trasferimenti più o meno giustificati, sono ingiustificabili se non attraverso il fatto che i partiti diventano gestori di un potere locale che in qualche modo deve essere arrestato. Credo che i partiti politici sani in qualche modo debbano restare. E qui arriva la proposta di separatezza. Io credo che la separatezza tra le funzioni politiche e di partito rompa questi schemi però abbia un rischio. Il rischio è che di rendere i partiti irresponsabili nei confronti di chi gli di chi viene eletto, di dei selezionati. Rischia cioè di indebolire la forza dei partiti politici di fronte ai poteri forti. È vero, adesso ci arrivo, poi bisogna, lo diceva Sposetti, poi bisognerà il problema delle liste, ma non ci si può fermare al problema delle liste. In qualche modo è nella responsabilità dei politici trovare una colleganza. E allora nella proposta di separatezza, quel che io dico, giusto o sbagliata che sia, certamente, tanto più se si formula la proposta di separatezza, bisogna stare attenti, come dire, alla normativa di contorno. E per normativa di contorno intendo dire tutta quella normativa che non separi, sì, i soggetti, gli eletti e i partiti, le cariche di partito alle cariche degli eletti, ma non separi eletti e elettori, o meglio il partito da chi sceglie. Come questa normativa contorno, mi limito a due, forse tre considerazioni e chiudo. La prima è la seguente: io credo che soprattutto con questa proposta debba essere accompagnata anche un altro grande problema, che è quello della formazione dei gruppi dirigenti, perché è la stessa cosa, è una normativa di contorno necessaria. Quello che voglio dire, Luigi, è che non vorrei che questa tua proposta fosse malamente interpretata e dice risolviamo tutto, come dire, creando un sistema di incompatibilità, per cui il segretario di partito non può farsi eleggere, se si fa eleggere in Parlamento deve dimettersi, che va bene se è all'interno di un contesto, e questo contesto è quello che in qualche modo fa sì che i partiti politici ridiventino si rioccupano dei gruppi dirigenti. Qui, scusate, io dico quello che penso, dico una cosa sgradevole, penso che sarà sgradevole a molti, ma chiedo perdono anticipatamente. Io non credo che la questione delle primarie sia risolutiva, credo che sia una scorciatoia. Non voglio dir nulla sulle primarie, certamente le primarie, per come sono state formulate oggi, insomma, nessuno le può più difendere. In alcuni casi parlo della legislazione, non generalizzo, in alcuni casi nessuno le può più difendere, ma proprio per questo io credo che l'importante sia, sì. Perché è una scorciatoia? Per due ragioni. Intanto perché, fatemelo dire, si dà per scontato, dopo la votazione dell'Italicum, dici, sei ingenuo, però siccome ho lo sguardo lungo, si dà per scontato che il sistema elettorale debba essere un sistema sostanzialmente a liste bloccate. E perché? Chi l'ha detto? Guardate, anche nel sistema, se noi passassimo a un sistema che personalmente ritengo più adeguato rispetto a quello che è stato approvato giusto oggi, in questi giorni, dei collegi uninominali, beh, insomma, la questione delle primarie deve essere ripensata completamente, perché lì non è che candidi un soggetto di un partito secondo di, ma candidi un soggetto candidato, e in qualche modo la responsabilità dei partiti fa il paio con il candidato del collegio uninominale. Uno. Secondo, in qualche modo la scorciatoia delle primarie è una scorciatoia, quella delle primarie, perché non fai conti con la vita interna dei partiti politici. Allora io credo che prima delle primarie, scusate il gioco di parole, ma prima delle primarie c'è da ridefinire le regole interne e di decisione dei partiti politici. Tante degenerazioni che noi vediamo, anche qui vorrendo fare l'analista e evitando di dare qualunque tipo di giudizio nel merito, però certamente sono il frutto di una modalità decisionale all'interno dei partiti. Beh, insomma, non voglio qualificarla, fantasiosa, perché non. Il che giustifica anche la ingovernabilità, la reazione di chi si oppone. Ma perché io devo stare a seguire adesso? Veramente sto facendo un discorso astratto. Ma perché io devo seguire il mio leader che alla televisione mi dice una cosa e non ha discusso con me nelle istanze dei partiti una linea politica? Qual è la ragione che può giustificare, se non logiche di potere? O di fedeltà. La fedeltà, io sono un laico, quindi la fedeltà sì, può operare, ma fino a un certo punto. Credo dunque che prima delle primarie c'è bisogno di una normativa che in qualche modo garantisca meccanismi di democrazia interna ai partiti politici. Un'ultima battuta, lo si è detto, l'ha detto anche Luigi, poi è evidente che la crisi dei partiti insomma, che c'è vita anche oltre i partiti. Luigi lo diceva inizialmente, i movimenti che hanno tanto. E io credo che, come dire, per ridare vitalità ai partiti politici, bisogna anche riflettere su come i cittadini, non più solo attraverso i partiti politici, possono partecipare alle politiche nazionali, o come collegare, come dire, i movimenti sociali con l'attività interna dei partiti, perché io avverto una forte frattura, gelosia, forse corrisposta, cioè dei partiti nei confronti dei movimenti e dei movimenti nei confronti dei partiti. Ma proprio per questo, se vogliamo superare questa fase di difficoltà, io credo che in qualche modo dobbiamo trovare dei meccanismi anche politici, culturali ovviamente, ma anche istituzionali, per far sollecitare, non voglio dire imporre, per sollecitare un dialogo tra movimenti e partiti. Ne dico una per tutti: il finanziamento dei partiti politici. Il finanziamento, si parla di finanziamento dei partiti politici, anzi di eliminazione in realtà, ma insomma. Io credo che bisogna riflettere sul finanziamento della politica in quanto tale. Vi faccio un esempio, perché sarebbe lungo farlo, ma se noi vogliamo favorire la partecipazione, favorire la partecipazione è necessario per la vitalità dei partiti, per la vitalità della società e per la vitalità dei movimenti. Beh, insomma, io non capisco perché non possiamo pensare a modalità di finanziamento indiretto della partecipazione politica, che potrà essere utilizzata dai partiti politici e dai movimenti. Ma insomma, voglio dire, perché deve esserci il monopolio dei movimenti nel fare i referendum? Dico referendum per spararla grossa, a proposito di momenti di partecipazione o anche manifestazioni di altro tipo, il monopolio di questi e il monopolio invece dei partiti politici in manifestazione di piazza. Non è neppure così. In qualche modo, quel che voglio dire è che bisogna trovare un meccanismo che favorisca la politica anche finanziariamente e non solo. Grazie, professore. È qui perché così registriamo. Se... E poi io, il professor Luciani, e Domenico Gallo, Anna Finocchiaro. Credo che anche Luigi voleva intervenire, ma lasciamo prima parlare l'interventore. Sì, dunque, io sono, mi chiamo Alberto Bitonti, sono, per mettere le mani avanti, sono il segretario di un circolo del Partito Democratico, il circolo di Trastevere, e un fervente sostenitore del ruolo dei partiti, della democrazia rappresentativa e della delega. Questo giusto per mettere le mani avanti e chiarirci, per togliere ogni dubbio a quello che sto per dire. In realtà nel mio intervento volevo esprimere un timore rispetto a quello alla proposta del professor Ferraioli, fare una domanda e proporre anche un paio di suggerimenti alla fine. Il mio timore qual è? È che non è che, data la sua proposta, lei ha usato un termine, restaurare il ruolo dei partiti, la parola restaurazione, secondo me è molto in linea appunto col senso della sua proposta, ma non teme che possa essere antistorico pensare di rispondere a un rapporto che lei ha denunciato come rovesciato tra economia e politica, a partire da una legge che ridia importanza ai partiti come soggetto che regoli i rapporti nella società? Non pensa che possa essere antistorico ricondurre tutta la partecipazione politica soltanto ai partiti politici, appunto, ve lo dico da segretario di un circolo, escludendo tutta la partecipazione politica che avviene in altre forme, con think tank, fondazioni, associazioni? Le persone adesso non fanno più, non attuano più la militanza come era un tempo, soprattutto nei tempi appunto nel secondo dopoguerra, in cui la partecipazione politica quasi veniva esaurita dalla militanza nel partito. Oggi le persone non sono più esaurite, non è più esclusiva la partecipazione a un partito politico e la stessa militanza. E quindi non sarebbe antistorico pensare di essere noi partiti gli unici veri rappresentanti del processo politico e della partecipazione politica? Non sarebbe antistorico pensare che nonostante i cali delle iscrizioni ai partiti, in realtà, ecco, questa considerazione sui cali delle iscrizioni non ignorano forse un dato di partecipazione, quello delle primarie, che con tutte le ombre che sono state giustamente evocate, comunque sottolineano una grande voglia di partecipazione da parte delle persone, che la domenica mattina alle 7, alle 8, noi lo vediamo, insomma, quando ci sono queste tornate di primarie, vengono lì, fanno la fila anche per un'ora, versano i 2 euro. Questa significa che milioni di persone vengono attratte comunque da questo modello, quindi sarei molto cauto nel pensare di pensare che i partiti possano semplicemente soppiantare tutto questo e pensare che siano una forma esclusiva di partecipazione politica. La domanda un po' provocatoria rispetto a quello che diceva anche sul fatto che non so, il segretario del partito che poi vince diventa premier, si dimette lasciando la mano. Ecco, la domanda è, per esempio, in paesi come il Regno Unito, la Germania o la Spagna, il fatto che il primo ministro sia anche segretario, leader del partito di maggioranza, rende questi paesi meno democratici, non volendo parlare dell'Italia perché altrimenti appunto spesso veniamo condizionati proprio da fattori antipatia o simpatie personali che dovremmo lasciare da parte quando si ragiona su questo. I due suggerimenti. Il primo è che forse ecco, dovremmo continuare questo dibattito sempre nella consapevolezza che in realtà tutta i partiti non possono certo tornare a essere quello che erano un tempo e che ma che comunque il loro ruolo come principali selezionatori di classe dirigente, lei parlava molto della funzione di rappresentanza di interessi, ma è proprio la funzione principale dei partiti è anche quella di selezionare la classe politica, no? E allora proprio su questo i partiti, insomma anche Sposetti diceva come vengono formate le liste, tendenzialmente anche prima dell'Italicum le liste vengono formate sempre appunto da questi partiti che a volte possono essere più o meno aperti, meno aperti, possono mettere le persone più o meno brave, sia con il Mattarellum, sia con il Porcellum, che con l'Italicum potranno trovare il modo di favorire alcune persone, quindi al di là delle leggi elettorali. Ma dobbiamo comunque tornare a investire nella scelta politica, sono molto d'accordo con quello che diceva Azzeriti, sul primato della politica, del partito che prende le decisioni, anche per esempio se fare le primarie o no, se accettare come candidati quelli impresentabili a cui si faceva riferimento, giustamente. Un partito, un dirigente di partito è quello che deve dire no, io a te non ti accetto nelle mie liste, oppure sì, non possiamo demandare a delle primarie o ai cittadini dire ok, chi vince le primarie io candido, perché altrimenti rinunciamo proprio al ruolo che abbiamo come dirigenti politici. L'ultimo suggerimento è quello di, per quanto riguarda i lavori della Fondazione di Mattia, del gruppo di lavoro, è quello di pensare alla legge di attuazione dell'articolo 49 in termini molto pragmatici, appunto, e non di restaurazione, in termini olistici, di riportare insomma ai partiti un ruolo di primaria di importanza restauratrice, appunto, ma di concentrarci su singole, piccole, pragmatici passi in avanti, quali appunto la regolazione volontaria, sono d'accordo con la proposta di Sposetti, delle primarie, come vengono svolte, se un partito vuole attuarle, che tipo di prerogative deve avere un partito per il riconoscimento della personalità giuridica, che tipo di caratteristiche, però ragioniamo sui piccoli passi, perché altrimenti non ne usciremo più. Vi ringrazio. Ho chiesto di parlare nel diabolico intento di impossessarmi di un bicchiere d'acqua. Grazie. Ma io non so se ho interpretato bene questa iniziativa, nel senso, credo che siamo qua per parlare effettivamente di questa ipotesi di ricerca, quindi senza fare chissà quali. E quindi vediamo un poco cosa c'è che convince, cosa per me personalmente non convince del percorso che è stato accennato prima da Luigi Ferraioli. Farei soltanto una premessa generale, che tutti quanti i corpi intermedi sono in grave difficoltà, perché noi abbiamo registrato due fenomeni storici possenti che hanno determinato una forte pressione verso l'individualizzazione, che sono la parcellizzazione dei lavori, da una parte, e dall'altra lo sviluppo della rete, dei social, dei mezzi di interlocuzione che scavalcano i soggetti intermedi e che apparentemente immettono le persone per l'appunto in una ampia rete comunicativa, ma in realtà li lasciano soli e nudi di fronte alle grandi questioni che debbono affrontare. Quindi non è soltanto un problema dei partiti, è un problema generale di tutti quanti i corpi intermedi, e che riguarda i partiti, riguarda il sindacato, pensiamo alle iniziative riformatrici che si stanno prospettando in Germania, riguardano le associazioni e quant'altro. Che cos'è che personalmente condivido? Condivido l'idea che effettivamente dei partiti ci sia bisogno anche di una legge. Una legge che in qualche modo temperi l'evidente crisi della rappresentanza. Qui insisto su un punto sul quale, insomma, più volte mi è capitato di invitare a riflettere. La crisi della rappresentanza, prima di essere una crisi del rappresentante, per la qualità dei rappresentanti, perché è una crisi del rappresentato, dell'identità dei rappresentati, cioè il povero rappresentante non sa chi rappresenta, per la ragione semplicissima che chi viene rappresentato non sa nemmeno lui chi è. Quindi questo è un punto delicato e quindi, come dire, non possiamo farci troppe illusioni sul fatto che premere sul pedale istituzionale ci consenta di raggiungere chissà quali risultati. Possiamo ottenere alcuni risultati, non voglio come dire, fare esercizio di benaltrismo, il problema è ben altro, no. Vediamo cosa si può fare con la leva istituzionale, però teniamo presente che ci sono dei processi molto grossi rispetto ai quali la leva istituzionale serve fino a un certo punto. Quindi la legge va bene, la legge di attuazione dell'articolo 49 secondo me va bene l'idea che i partiti abbiano uno statuto, magari uno statuto degno di questo nome, uno statuto fatto per bene. Qualche volta basta un notaio, io potrei consigliare dei bravissimi notai che possono scrivere degli statuti eccellenti, che sono molto migliori degli statuti di tanti partiti. Che cosa serve? Si scrive, poi l'ho visto nell'invito, e l'hai ridetto Luigi, i programmi, ma io lì francamente dire ai partiti che debbono mettere in statuto i loro programmi, insomma, è tendenzialmente aria fritta. Se andiamo a vedere quello che dicono i partiti, sì, i grandi valori, insomma, vabbè, insomma, cioè, francamente, l'eguaglianza, la libertà, cioè, io francamente ci credo poco, insomma, ecco, devo dire la verità, sono cose nelle quali credo, sarò malpensante, ma ci credo molto poco, secondo me è proprio inutile, mentre invece ritengo che le cose più importanti siano le norme sulla democrazia interna, questo sì. Le primarie, io non sono tanto un amico delle primarie, perché le primarie hanno degli effetti fortemente divisivi sui partiti e sono anche nate storicamente con lo scopo, negli Stati Uniti, sono nate storicamente con lo scopo di indebolirli i grandi partiti di massa. Questo è evidente, e anzi di sviluppare il fenomeno del bossismo. Però se vogliamo farle le primarie, facciamole, ma discipliniamole. Prima è stato detto, votano, chi l'ha detto, Sposetti, vanno a votare quelli che sono iscritti nelle liste elettorali, però qui ci vuole lo spirito repubblicano che è un po' latente in Italia, insomma. Se le primarie sono aperte io dubito della serietà del risultato. Quindi ho l'impressione che si dovrebbe lavorare invece su primarie chiuse, e sono d'accordo sull'idea che le primarie debbano essere peraltro volontarie e non obbligatorie. E che cosa invece mi convince di meno? Beh, mi convince di meno la proposta fondamentale, cioè l'idea che ci sia incompatibilità tra cariche di partito e cariche istituzionali. No, non sono d'accordo. Non sono d'accordo perché io direi che noi dobbiamo vedere quali sono le dinamiche concrete che poi si mettono in campo una volta che si fissa una regola di questo genere. Che cosa può accadere? Beh, possono accadere varie cose. Per esempio può accadere quello che è accaduto per il rapporto Parlamento-Governo. Cosa è successo con il rapporto Parlamento-Governo? Abbiamo separato il Governo da una parte e il Parlamento dall'altra, ma paradossalmente il rapporto di fiducia che serviva al Parlamento per essere, come dire, la guida del Governo e per fare del Governo il comitato esecutivo, proprio il rapporto di fiducia ha trasformato il Governo in comitato esecutivo del Parlamento, anche attraverso alcuni strumenti del diritto parlamentare che conosciamo bene, come la questione di fiducia. Se accade questo, l'ipotesi francamente è più pericolosa che utile, perché sì, queste dinamiche diventano a questo punto molto meno trasparenti di quanto sta accadendo adesso, quindi avremmo ottenuto il risultato che le cose non cambierebbero ma sarebbero meno trasparenti. Oppure può succedere un'altra cosa, sì davvero, i rappresentanti si autonomizzano, cioè che le istituzioni si autonomizzano dai partiti davvero grazie al fatto che c'è questa incompatibilità. Però qui vedo un certo paradosso. Cioè, noi abbiamo dei cittadini che votano i loro rappresentanti sulla base di programmi di partito, di candidature di partito, però poi costoro si autonomizzano rispetto ai partiti che hanno espresso queste candidature. Io ci vedo, scusami Luigi, non voglio essere, ma insomma un po' il mito dell'autonomia delle istituzioni politiche, che francamente non esiste, mentre io coltivo ancora il mito dell'autonomia delle istituzioni di garanzia, ma il mito delle istituzioni politiche non lo coltivo tanto, e non mi sembra in armonia con l'articolo 49 della Costituzione e con l'impianto della Costituzione. Io dico sempre che per me ci sono tre sfere della politica disegnate dalla Costituzione, concentriche, una grande, una intermedia e una più piccola. La sfera grande è la sfera della politica nazionale. Questa sfera della politica nazionale vede i partiti protagonisti, perché, lo dice l'articolo 49, si concorre con metodo democratico, ma badate bene, alla determinazione della politica nazionale. Poi c'è la sfera della politica parlamentare, che sta dentro questa sfera, e poi infine c'è la sfera della politica governativa, dell'indirizzo politico governativo. L'indirizzo politico attraversa diagonalmente tutte e tre queste sfere. Al contrario di quanto immaginava la dottrina costituzionalistica italiana degli anni 30, che radicava l'indirizzo politico dentro il governo, invece la Costituzione lungimirantemente l'indirizzo politico lo fa passare attraverso tutte e tre queste sfere. Ma se noi aderiamo a questa proposta che fa Luigi, secondo me le tre sfere non le rendiamo più intercomunicanti, ma le separiamo. Vero che i partiti non sono e non devono essere poteri dello Stato, l'ha detto la Corte Costituzionale in una relativamente recente ordinanza in cui di fronte a un conflitto tra poteri dello Stato ha detto ma no, il partito politico non può essere parte di un conflitto di attribuzione, non è un potere dello Stato, e ha fatto bene a dirlo, ma da questo a determinare questo distacco, secondo me, io inviterei alla prudenza, insomma qui stiamo parlando, diciamo la prima riflessione, inviterei alla prudenza. Ultima osservazione. E Bitonti, se non sbaglio, prima diceva non va bene il termine restaurazione. Sì, effettivamente restaurazione nella storia del pensiero politico non è una cosa proprio. Forse restauro già potrebbe andare bene, ma questo paese però diciamo invece si è sempre ispirato ad altro, no? Questo è un paese che ha costruito la propria storia. E su grandi momenti di rinascita, no? Il rinascimento, il risorgimento, la resistenza come nuovo risorgimento. Ogni volta noi dobbiamo rinascere da una catastrofe. Ecco, si tratta di capire se siamo davvero dentro una catastrofe, com'è possibile che siamo, quali siano gli strumenti per questo nuovo rinascimento e se dobbiamo stare attenti alle parole. Effettivamente sono d'accordo con Bitonti, non la chiamiamo restaurazione ma rinascita, come vi pare, insomma. E Domenico Gallo, prego. Grazie, scusatemi, io devo fare come Azzariti, chiedere scusa preliminarmente se qualcuno si possa offendere per quello che dico. Comunque il dibattito deve essere franco, quindi lo sarò. Ora, questa proposta sulla quale la Fondazione Basso ci chiama a confrontarci nasce da un paradosso, perché si propone di dare attuazione all'articolo 49 della Costituzione nel momento in cui l'articolo 49 della Costituzione è stato distrutto dalla legge elettorale. Quindi in pratica si tratta di un'opera veramente difficile. Ora, oltre 200 anni fa, Domenico Romagnosi diceva la teoria delle elezioni non è altro che la teoria della Costituzione. Quindi se noi cambiamo radicalmente la legge elettorale, cambiamo la Costituzione nel nostro Paese. E noi abbiamo un'esperienza storica in cui la legge elettorale è stata cambiata radicalmente ed è stata cambiata la Costituzione. Ce lo diceva Giovanni Amendola nel 1923. Ora noi siamo ritornati attraverso questa nuova legge elettorale, siamo ritornati alla legge Acerbo, cioè siamo ritornati a una legge che per legge investe un solo partito del controllo del Parlamento e del controllo del governo, del controllo del capo dello Stato, perché questo partito destinato a governare può eleggere il capo dello Stato e può incidere molto sulle istituzioni di garanzia attraverso il controllo delle nomine nella Corte Costituzionale. Quindi è cambiata la Costituzione, nel senso che attraverso la legge elettorale si determina una concentrazione di poteri nelle mani di un gruppo politico, meglio ancora di un capo politico, tenendo conto del livello oligarchico, diciamo così, raggiunto dai partiti politici, si concentra nelle mani di un capo politico il potere di governo, il controllo del Parlamento e diciamo così, l'indifferenza agli organi, la capacità di essere indifferente agli organi di garanzia. Questo è già successo una volta nella storia del nostro paese, con esiti disastrosi. E d'altronde abbiamo la prova storica, perché nel 1923 c'era un capo di governo che era capo di una coalizione in cui c'erano 5, 6, 7 partiti. Con la nuova legge elettorale, questo stesso capo di governo, un unico partito, ha controllato il Parlamento, il governo e tutto il resto. Quindi ha cambiato la natura della Costituzione dell'epoca. Ora, bisogna, ovviamente, questo sviluppo può essere contrastato in tanti momenti, per cui io non credo che sia inutile questo discorso sull'articolo 49, non volevo demolirlo. Anzi, è importante che venga rilanciato, perché bisogna agire sui vari livelli. Però, francamente, dobbiamo lavorare in salita, perché... Non so, nel momento in cui Matteo Salvini, con un miserabile 20%, riuscirà a ottenere di voti popolari, riuscirà a ottenere una maggioranza di ascari nel Parlamento, sarà nominato capo del governo, eleggerà il Presidente della Repubblica, sarà arduo parlare di democrazia nei partiti, diciamo così, in questo nuovo contesto istituzionale. Però insomma, è un'utopia che non dobbiamo abbandonare, quindi io sostengo la proposta di Luigi Ferraioli e penso che bisogna andare avanti lungo questa strada. L'unica cosa che non condivido del tutto è l'incompatibilità fra la funzione parlamentare e le cariche di partito, o comunque la funzione di partito, perché il Parlamento un po' è l'interfaccia dove si verifica questa osmosi fra la società e lo Stato. E quindi è un double face, diciamo così, la funzione del parlamentare. È una funzione di partito, ma è anche una funzione di Stato. Quindi l'incompatibilità la porterei ai livelli di governo, non a livello di Parlamento. Ecco, questo è tutto, grazie. Grazie dell'invito e grazie anche di questa riflessione, perché... In realtà la discussione sull'attuazione dell'articolo 49 ha già avuto nel nostro sistema un inveramento, diciamo, no? Con le disposizioni sul finanziamento pubblico ai partiti, quindi diciamo che una parte di quello che sarebbe stato il contenuto necessario di una legge di attuazione dell'articolo 49 sta già nell'ordinamento. Quanto al resto, e adesso ci tornerò per spiegare di che cosa si tratta, ovviamente coerentemente a quella che è la mia idea di cosa debbano essere i partiti politici oggi, dopo la crisi del partito politico tradizionale, e a che cosa possano servire. Per quanto riguarda il resto, in realtà la Commissione prima del Senato procederà alla discussione dei disegni di legge di attuazione dell'articolo 49. Io credo in breve tempo, poiché l'unica cosa che stiamo attendendo è il deposito di un disegno di legge del Partito Democratico che è stato annunciato nella direzione ultima del partito, essendo ne state affidate alla redazione a un gruppo di lavoro dopo una discussione politica che si era avuta appunto in direzione, alla quale io non partecipo, quindi riferisco del relato, non sono componente della direzione del partito. Se questo gruppo di lavoro invece continuerà i propri lavori con una certa velocità, sarebbe interessante accompagnare l'inizio della discussione generale anche con l'ascolto di quello che qui viene elaborandosi, anche in sede di audizione e comunque in sede di partecipazione di componenti della Commissione ai lavori di questo gruppo di lavoro. Io credo nei partiti politici e credo nella necessità dell'attuazione dell'articolo 49, lo dico subito, e al contrario di quanto non pensi Mimmo Gallo, penso che anche in ragione dell'approvazione del cosiddetto Italicum, della cui costituzionalità io non dubito, altrimenti non l'avrei votato, una legge sui partiti politici sia oggi più che mai indispensabile, perché io credo che bisognerebbe guardare, almeno io così faccio, con laicità all'attuazione dell'articolo 49, cercando di cogliere l'aspetto moderno di quella che può essere una regolazione dei partiti politici che, per quanto mi riguarda, deve avere attenzione innanzitutto alle regole della vita interna dei partiti, al fine di garantire quel concorrere alla vita politica del Paese, tanto più necessario di fronte a fenomeni che, al di là del singolo personaggio, sono quelli di una personalizzazione dei partiti politici e della corrispondenza tra le posizioni da essi assunte e la posizione del loro leader, o meglio, al contrario, è la posizione del leader, spesso senza una discussione precedente, un approfondimento, una assunzione di decisione democratica, che diventa la linea di quel partito politico. Ergo, un contrappeso è per quanto riguarda il programma, e per quanto riguarda la scelta delle alleanze, e per quanto riguarda la definizione delle scelte politiche, per quanto riguarda la definizione delle candidature, la scelta dovrebbe essere quella di una legge che aiutasse a disciplinare in maniera molto puntuale e seria la vita democratica interna di ciascun partito politico. A mio avviso, questo costituisce già in sé un contrappeso in un sistema che è certamente istituzionale, ma che non è, come dire, scisso, al contrario vive in un tessuto di relazione politica ed è abitato da soggetti, è agito da soggetti politici. La regolazione delle primarie. Allora, io non credo nelle primarie aperte, proprio perché credo nei partiti politici, e quindi credo che la scelta delle candidature appartenga alla responsabilità dei partiti politici, dei suoi militanti e dei suoi dirigenti. E dunque ritengo che la scelta delle candidature vada fatta, semmai, se ve ne sia necessità, attraverso primarie interne, quindi non aperte, come abbiamo fatto recentemente. Ma secondo me ha ragione Azzariti, le primarie possono essere una scorciatoia, il professor Azzariti, chiedo scusa, possono essere una scorciatoia rispetto a quella responsabilità delle classi dirigenti che dovrebbe essere, tra l'altro, stretta dalla trama di un processo interno democratico che valga, tra l'altro, a sconfiggere il male dei comitati locali, mentre al contrario il sistema delle primarie molto spesso viene fortemente influenzato dalla forza dei comitati locali. Sulla questione che poi riguarda il finanziamento pubblico dei partiti, io credo che partiti così normati, diciamo così, un'attuazione dell'articolo 49 così puntuale rigiustificherebbe il finanziamento pubblico dei partiti o della politica. Poi lì, insomma, si apre un altro versante di discussione molto interessante, molto importante, l'ha aperto credo poco fa Sposetti. Mi permetto tra l'altro di dire che, guardando le cose dalla parte della cronaca e della realtà che poi tutti conosciamo, e quindi evitando, come capita talvolta, di astrarre troppo, io vedo il rischio che l'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti conduca alla necessità, saldata insieme all'esistenza di cosiddetti comitati elettorali, comitati locali, cacicchi o quant'altro vogliamo dire, conduca a un rischio corruttivo altissimo, altissimo, di finanziamento del singolo personaggio politico all'interno dei partiti. A me questo non pare né sano né moderno, e certamente non utile. Insomma, e in definitiva, penso che per discutere dell'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione dovremmo prima pensare a che cosa servono oggi i partiti, a cosa servono nell'assetto istituzionale che deriverà compiutamente dalla riforma costituzionale e dalla legge elettorale, ma anche a che cosa servono nel momento in cui io sono dell'opinione, ma potrei sbagliarmi naturalmente, che di fronte alla parcellizzazione degli interessi, alla complessità crescente della realtà sociale, alla problematicità crescente della situazione anche di crisi profonda del paese, che è stata crisi economica, e già questo basterebbe, ma non è soltanto questo. Io penso che la risposta che viene data da alcuni movimenti del fatto che la consultazione può essere libera, può essere fatta con lo strumento della comunicazione, eccetera, non risolva una questione, che è la questione della rappresentanza. Credo che ne parlasse poc'anzi Luciano, che crisi soprattutto, sono d'accordo, dei rappresentati, non tanto dei rappresentanti. A mio avviso, negli uni e negli altri sanno esattamente di che cosa stanno parlando. A me capita talvolta in Parlamento, confrontandoci con colleghi che appartengono per esempio al Movimento 5 Stelle, di avere chiara questa, come dire, spaesamento. Loro non sanno chi rappresentano, e dall'altra parte i rappresentati che magari hanno interferito, ha avuto relazione con loro, non sanno esattamente come e perché dovrebbero essere da quei soggetti rappresentati. Questa della rappresentanza è una grande questione del nostro paese. Basterebbe pensare al capitolo della rappresentanza sindacale per capire quanta difficoltà, no? Oggi troviamo nell'adeguare lo strumento della rappresentanza, così come classicamente l'abbiamo conosciuto, rispetto ad una realtà sempre più parcellizzata, non organizzata, direi che ha talvolta la caratteristica di mille monadi che si muovono ciascuno per proprio conto e ogni tanto si sfiorano, entrano addirittura in collisione. Per questo, laicamente, pensare a uno strumento come partito politico da costruire con un'attuazione dell'articolo 49 che abbia grande attenzione alla democrazia interna, ai profili di responsabilità, ai profili di finanziamento, ai diritti degli elettori, ai diritti dei militanti, introdurrebbe, darebbe la possibilità di disporre di strumenti di cui al momento mi pare che siamo privi, e quando questi strumenti vengono a mancare le derive purtroppo sono sempre in agguato, hanno una strada aperta. Credo che bisognerebbe evitare che questa strada fosse troppo pervia. Molte delle obiezioni, delle osservazioni, e io vorrei dire questo: a che cosa serve, cominciando con una domanda, dalla domanda di Anna Finocchiaro, a che cosa servono i partiti e che cosa li distingue dai movimenti? È ovvio che i movimenti sono forme di militanza e di partecipazione alla vita politica. Quello che distingue i partiti, e che solo i partiti possono fare, è presentarsi alle elezioni. Questo è il ruolo, diciamo, di mediazione della rappresentanza previsto precisamente dall'articolo 49. E quindi c'è una specifica funzione che oggi, diciamo, è in crisi, direi che è crollata, perché sono crollati i partiti. Io vorrei subito chiedere al Massimo Luciani, ma di che cosa stiamo parlando quando parliamo di protagonismo dei partiti politici? I partiti dovrebbero essere protagonisti. Attualmente, lo diceva Sposetti, che tra l'altro è un illustre esponente del Partito Democratico, di questi partiti la democrazia non ha nessun bisogno. Partiti come questi sono completamente privi di capacità di condizionamento, sono svuotati delle loro funzioni di indirizzo politico, di orientamento, di progettazione, di elaborazione dei programmi. Abbiamo il partito azienda di Berlusconi, abbiamo avuto il partito Grillo, e che è un partito marchio, abbiamo i partiti tutti personalizzati, e quindi questa è la crisi che deve essere affrontata, ed è una crisi radicale. Dobbiamo prendere atto che questa è una crisi, diciamo, che può travolgere la democrazia rappresentativa. I partiti attualmente sono l'istituzione più screditata dell'intero sistema politico, culturale, sociale, economico, istituzionale. Nelle sondaggi che vengono fatti siamo arrivati al 2%, e naturalmente questo discredito dei partiti si sta trasferendo sulle istituzioni rappresentative e quindi anche sul Parlamento. E allora rifondare i partiti diventa una questione costituzionale pregiudiziale, tanto più, diciamo, rilevante, tanto più necessaria, e con questo rispondo a Domenico Gallo, proprio perché il sistema politico si sta avviando verso forme di personalizzazione, di controllo autocratico, il rischio per l'appunto di un premierato assoluto, no? L'espressione usata da Elia a proposito della vecchia riforma costituzionale può usarsi anche oggi, e allora la necessità di rifondare, rivalorizzare i partiti, renderne istituzioni credibili, organi della società, diventa necessario come contrappeso e come, diciamo, fonte della legittimazione democratica delle istituzioni rappresentative. Quindi capovolgerei interamente le preoccupazioni che sono state avanzate. Questa separazione restituisce i partiti al loro ruolo di organo della società, ne aumenta l'autorevolezza, ne fa per l'appunto centri di vita collettiva, liberi dai conflitti di interesse che sono inevitabilmente connessi alle autocandidature oppure alle candidature delle persone più fedeli. Oggi questo è il tipo di selezione, in peggio la selezione dei peggiori, dei gruppi dirigenti, che può, diciamo, essere, diciamo, fronteggiata da misure radicali. La prima misura, ovviamente, su questo non vorrei essere frainteso, è l'imposizione di regole democratiche di vita interna, ben più importanti, diciamo, dei principi che definiscono l'identità di un partito, anche se questi non sono del tutto secondari. Ci sarà la destra che metterà l'ordine pubblico, metterà il mercato, ci sarà la sinistra che metterà il lavoro. Comunque, non è del tutto secondario che vengano richiamati gli esponenti dei partiti alle loro ragion d'essere, no? La Costituzione cos'è se non la ragion d'essere di un sistema politico e di uno Stato? Perché i partiti non dovrebbero giustificare la loro presenza, la loro fondazione, non con programmi? I programmi sono le cose da fare, contingenti, ma con le loro, diciamo, identità politiche. Ma del tutto secondario, ovviamente, rispetto alle regole di democrazia interna, dirette a fare delle organizzazioni di base i luoghi sovrani della formazione della volontà politica. Ma questo è possibile solo se i partiti riacquistano una credibilità legata al venir meno, appunto, di questo tipo di carriera che vincola inevitabilmente i dirigenti dei partiti alla prospettiva delle elezioni, al mantenimento, all'andare, insomma, alla carriera politica. Insomma, l'idea di Weber, vivere per la politica o vivere di politica. Oggi si vive di politica nel sistema politico e non certo per la politica. Naturalmente io non mi illudo che una proposta di questo genere possa, diciamo, realizzarsi, tanto è l'interesse del ceto politico a mantenere la propria inamovibilità. Però io credo che debba essere denunciato con forza il rischio di crisi della democrazia come conseguenze di questa crisi radicale dei partiti. Una crisi, aggiungo, che è aggravata dalla riforma istituzionale e anche dalle leggi sul finanziamento, in cui sono completamente d'accordo con Sposetti e anche con Anna Finocchiaro, e cioè il finanziamento deve essere pubblico. Dovrebbe essere escluso il finanziamento privato da parte di persone giuridiche che evidentemente non hanno nessun interesse ideale nel finanziamento dei partiti, società per azioni, enti parastatali. Dovrebbe essere escluso qualunque finanziamento oltre una certa cifra per evitare che, andando a votare, noi, anziché eleggere i candidati, eleggiamo i loro finanziatori. Perché questa è la realtà del finanziamento privato. Eleggiamo e mandiamo in Parlamento le forze, i soggetti che hanno finanziato i partiti, che hanno finanziato le persone soprattutto, e che naturalmente le hanno finanziate quando si tratta di finanziamento da parte di persone giuridiche, di società per azioni, oppure finanziamenti oltre una certa cifra, nell'aspettativa di benefici. Ultima considerazione riguarda la questione delle primarie. Le primarie sono uno strumento democratico di selezione del personale politico all'interno del partito, come dirigenti di partito e anche delle candidature, se limitate agli iscritti. Altrimenti sono aperte, diciamo, alle incursioni più imprevedibili e più deformanti, di cui io credo che abbiate esperienza nel Partito Democratico, no? La Campania, la Liguria, eccetera. E cioè sono un sistema di selezione soltanto se fortemente regolato. L'importante è che ci siano regole molto rigide che oggi possiamo elaborare sulla base dell'esperienza, l'esperienza soprattutto dei gravi danni provocati da alcuni sistemi, a cominciare dalle primarie. Quindi sono d'accordo in questo su Luciani, non obbligatorie ma volontarie, ma fortemente regolate, lo diceva Sposetti, come le elezioni politiche, perché diventano appunto momenti di formazione della volontà politica non meno importanti di quello delle elezioni generali. Grazie Luigi, adesso ricominciamo. Avevo, ecco là, prego, se vuol venire, e poi Alessandro Ferrara e Mariuccia Salvati. Prego. Mio nome è Sergio Benassai. Volevo intervenire su l'aspetto della rappresentanza dopo aver sentito gli ultimi interventi. In particolare, il problema che mi si poneva a fronte della proposta sulla attuazione dell'articolo 49 della Costituzione è il fatto si abbiamo ben chiaro che cosa vogliamo andare a regolamentare. Nei termini, dice dobbiamo regolamentare i partiti. Ma è chiaro che cosa sono i partiti politici, rispetto a qualunque altra forma di rappresentanza. Il professor Acciaioli, il Ferraioli, scusi, in questo ultimo intervento ha in parte cercato di chiarire, mi sembra. Vale a dire, distinguiamo ad esempio un partito politico rispetto a un movimento per il fatto che il partito politico si presenta alle elezioni. Ma è questo allora che vogliamo fare? Cioè regolamentare un qualunque gruppo di cittadini e cittadine che desidera presentargli una lista deve avere la denominazione di partito, deve avere uno statuto e così via? È questo che vogliamo veramente, intendiamo? Oppure intendiamo un qualcosa diverso? Cioè io credo che prima di avviare questo processo di definizione in termini di regole democratiche, di statuti, di rispetto di certe regole di carattere generale, si deve chiarire veramente quali sono i soggetti in termini organizzativi ai quali ci rivolgiamo. Cioè, copriamo soltanto le associazioni che intendono presentarsi alle elezioni oppure movimenti politici di carattere più generale e quindi, come dicevo prima, intendiamo sottrarre a chiunque non sia definito come partito la possibilità di presentare liste? E questo aspetto si manifesta soltanto a livello di elezioni nazionali o vale anche per le elezioni regionali, locali e così via? Ecco, forse un chiarimento da questo punto di vista almeno per me sarebbe utile. Grazie. Grazie di questa interessante domanda. Prego, Alessandro. Sì, anch'io confesso, come altri prima, di non avere immediata internità al tema. Sono di mestiere un filosofo della politica, non sono un giurista, non sono un politico, non sono un parlamentare, e un filosofo della politica, e volevo reagire alle tante sollecitazioni, nel senso che penso di individuare due anime in questa proposta, che convivono insieme in un qualche equilibrio, e parte del dibattito lo interpreto come una tensione, una lotta tra diverse accentuazioni di questo equilibrio. Allora, la prima anima è un'anima difensiva, e io non posso che concordare pienamente con la replica adesso di Luigi Ferraioli. I partiti, che sono i principali e le principali strutture in crisi, rischiano di trascinare nella crisi anche le istituzioni democratiche, che sono cosa diversa da loro. E quindi la funzione difensiva della proposta è quella di mettere ordine, regolare la vita di questi soggetti costituzionalmente previsti, regolarne secondo un principio di certificazione di qualità. Noi abbiamo l'idea pienamente accettata di certificazione di qualità su qualunque cosa: pure se fai il pecorino devi rispettare certi standard per poterlo chiamare tale, o il parmigiano. Non si vede perché non ci debba essere un requisito minimo che un'organizzazione debba rispettare per poter concorrere alle elezioni. Io non vedo uno scandalo democratico, uno scandalo di restrizione della libertà in questo senso. Allora, da questa anima difensiva discende una serie di cose. Le primarie, per esempio, su cui può esserci una per legge una forma di argine a quella tendenza alla personalizzazione della politica che è nei processi più ampi del nostro paese, e non credo che siano divisive intrinsecamente. L'esperienza degli Stati Uniti, dove hanno più ampio rilievo, ci insegna che in presenza di una cultura democratica l'esito non è divisivo. Pensate a quanto è stata una lotta testa a testa quella per la candidatura di Obama e di Hillary Clinton, e quanto alla fine questo non abbia spaccato il partito, ma abbia, perché siamo in presenza di una cultura politica che fa riallineare colui che cede il passo immediatamente nella squadra dell'altro. Trasferito nel contesto italiano, Hillary Clinton forse avrebbe negoziato alcuni posti chiave nel governo in cambio della propria... Molto di meno. Non arrivi agli esiti della spaccatura. Quindi non sono necessariamente divisive, lo diventano in un certo contesto politico. Quella è la forma con cui ci si può difendere da una certa deriva, che arriva al limite, se mi consentite una sparata, diciamo, da non specialista, arriva al limite del rasentare quello che si potrebbe chiamare ricostituzione del partito fascista, che non va inteso nel senso di mettere fuori un'insegna partito fascista italiano, che nessuno farà mai, ma va inteso nel senso di riprodurre qualcosa che era organico a una certa esperienza politica. Allora, parlando della vicenda delle primarie di una certa forza politica un paio d'anni fa, quando c'erano 13 candidati e il grande leader del partito prima sembrava consentisse all'ipotesi che colui che aveva la responsabilità formale, il segretario del partito, indicesse queste primarie, e poi non veniva la data, e la data veniva spostata, e questi 13 candidati scalpitavano, e alla fine lo stesso personaggio disse: non si fanno più perché corro io. Ecco, lì c'è in nucleo un rapporto con la democrazia profondamente bacato, che la legge può a pieno titolo dover regolare. Questa è l'anima difensiva. Anche sul finanziamento dei partiti penso che non necessariamente dobbiamo arrivare all'estremo di una proibizione del finanziamento privato. ancorché sia regolato in un quadro di equità elettorale, che è un tema che è fuori dal nostro dibattito politico. Pensate al Regno Unito, quando Blair istituì la commissione Blair sull'equità elettorale, dicendo un sistema bipartitico, bipolare, in realtà è anche lì, e quando i finanziamenti sono sproporzionati in ragione di 3-1 da una parte e dall'altra, come si fa a chiamare equo il risultato delle urne? Quindi il risultato di questa riflessione della commissione O'Neill nel 2002 fu una legge che regolò nella liberalissima Inghilterra quanto può spendere ciascuna coalizione da una parte e dall'altra, giù fino alla contea, all'unità circoscrizionale minima. Quindi il finanziamento privato non necessariamente deve essere demonizzato, escluso, se regolato in un quadro del genere. Questa è l'anima difensiva. Poi c'è un'anima invece, non voglio dire il contrario, offensiva, ma un'anima propositiva, su cui invece sono più dubbioso, cioè l'idea dei partiti centro della vita. La riproposizione, qualcuno ha questionato sul termine restaurazione, oppure in qualche modo sulla provocazione anacronistica di rivalorizzare i partiti, sono ragioni profonde, non necessariamente ignobili, della crisi dei partiti, cioè il nesso di interessi e altro. Ci sono ragioni del fatto che un partito ha senso come fonte di identificazione collettiva, è uno degli assi primari delle identificazioni collettive fino a qualche anno fa, era l'identificazione con sistemi socio-economici alternativi, uno era pro mercato, l'altro era contro il capitalismo, ed erano fonti di identificazione che davano ragion d'essere a posizioni, a partiti e sfumature varie. Oggi questo aspetto per esempio è tramontato, con cose che non hanno nulla a che fare con la corruzione, perché è tramontato un certo orizzonte storico. Quindi la crisi del partito con cui tu ti identifichi, il partito per cui ti sacrifichi la tua carriera, certi obiettivi, il tuo tempo, una serie di cose, questo e viene a soffrire anche da questo mutamento storico, che non è a disposizione di una proposta di legge mutare. È qualcosa di molto, di molto più profondo, e allora forse faremmo meglio anche a non focalizzarci su questa forma unica di partecipazione alla politica e di rappresentanza. Qui c'è un altro tema della rappresentanza che è stato invocato, sono 10 anni che quello è il punto su cui in tanti paesi si riflette, non solo nel nostro, sulla crisi del monopolio della rappresentanza parlamentare. Cioè, quando diciamo rappresentanza, noi ci scatta in mente un'idea per cui rappresentare vuol dire votare per qualcuno che porterà avanti, come si dice, le tue istanze, vuoi materiali di interessi, vuoi valoriali, di ideali, nel luogo che veramente conta, il Parlamento. E questa è un'idea di rappresentanza che sempre più viene vista come in qualche modo restrittiva. Per ragioni interne, la presenza di una rappresentanza anticipatoria, cioè l'eletto anticipa altri che lo voteranno in futuro se farà determinate cose, quindi lì c'è un disturbo interno della funzione di rappresentanza, ma ci sono anche altre questioni che fanno sì che si parli sempre più di rappresentanza informale, di rappresentanza discorsiva, di altri tipi di rappresentanza simbolica, eccetera, cioè di discorsi che rompano il monopolio della rappresentanza parlamentare e dunque inevitabilmente levano importanza ai partiti. In quel quadro vengono a levarlo per motivi storici. L'ultima cosa che mi lascia in dubbio sull'aspetto propositivo, diciamo, mentre su quello difensivo assolutamente in pieno accordo, sulla proposta difensiva è che i partiti, e questa enfasi sui partiti, finisce per alimentare un metadiscorso costituzionale sul Parlamento e quello che avviene in Parlamento come scena non solo fondamentale, ma quasi esclusiva della rappresentanza della volontà sovrana del titolare della sovranità, e cioè il popolo democratico. E questa è una visione francamente parziale che alimenta questa percepita centralità dei partiti, come se l'esecutivo non fosse fosse un figlio minore nella divisione dei poteri rispetto alla volontà sovrana, per non parlare. È stato figlio unico, no? Adesso sta diventando figlio. Sì, ci sono delle alterazioni di equilibrio, ci sono delle alterazioni di equilibrio, però dentro sistemi che non sono centrati sui partiti, sulla dinamica dei partiti, pensa al caso degli Stati Uniti, democrazia che vive benissimo con grandi partiti contenitori, di cui chi è il segretario del Partito Democratico, chi è il segretario del Partito Repubblicano, ma neanche lo sappiamo chi sono queste figure qui, e l'eletto, in questo la separazione degli eletti, eppure sopravvive perfettamente attraversando fasi storiche di cambiamento, pensiamo alla stagione dei diritti civili, senza che si formi il partito dei diritti civili, ma con una dialettica che è interna uguale. Allora, esistono esperienze democratiche che non demonizzano o come l'antipolitica vedono nei partiti l'origine del male, ma diminuiscono fortemente la loro importanza. Quindi in fase propositiva ha un aspetto forse restaurativo che è stato messo in luce, ma in chiave difensiva sicuramente sì. Grazie, però ho altri tre richieste di intervento. Prego lei, Mariuccia Salvati, Miguel Dottor e un intervento di Mattia. Vi prego di aver pazienza. Volevo brevemente richiamare, diciamo, una puntualizzazione. Sono d'accordissimo che la crisi. Mi dispiace dire il suo nome. Che la crisi del sistema dipende dalla crisi di reclutamento della classe dirigente. La crisi del reclutamento dipende dalla crisi dei partiti, e la crisi dei partiti passa attraverso la riforma dell'articolo 49. Però non soltanto, io ritengo, passa attraverso l'articolo 49. Sì, anche l'articolo 49 è stato molto accennato, il problema della concorrenza, è un'espressione un po' ambigua, concorrenza tra partiti all'interno del sistema partiti o concorrenza tra il sistema e partiti ed altri sistemi della base sociale. Comunque non è solo l'articolo 49, ritengo, che noi dobbiamo vedere. Qui abbiamo accennato spesso al problema della rappresentanza. Il problema della rappresentanza riguarda anche il problema della vita dei partiti dentro il Parlamento, non soltanto nel loro accesso del Parlamento. Intendo parlare dell'articolo 67. Resuscitare l'articolo 67, in cui ciascun membro del Parlamento rappresenta la nazione senza vincolo di mandato, è stato resuscitato molte volte riguardo a dei parlamentari che entravano in crisi di rapporto con il proprio gruppo, e allora lì si cominciava a parlare di cambio di casacca, di turismo politico, parlamentare e così via. Va resuscitato attraverso un'azione pedagogica della base sociale. Quando io vado a votare non la persona di fiducia del leader del partito, devo rendermi conto che devo votare per una persona che in scienza e coscienza rappresenta non il suo elettorato, ma rappresenta tutta la nazione, in scienza e coscienza. E questo è importante. Allora bisogna andare oltre all'articolo 49, bisogna passare attraverso la riforma dei gruppi parlamentari. Entriamo negli interna corporis, è molto delicato, ma è tutto delicato il mutamento di questo sistema. I regolamenti interni dei gruppi parlamentari, i rapporti tra singolo parlamentare e il gruppo e la leadership del gruppo. È quello, diciamo, prima ancora che non l'articolo 49, perché la crisi dei partiti è nata dentro il Parlamento prima che fuori del Parlamento. Hanno perso credibilità fuori perché non erano più credibili all'interno. Poi una domanda generale, molto delicata. Riteniamo tutti che una riforma così radicale possa avvenire attraverso una riforma parlamentare? Qui noi siamo nel circolo di un grande costituente, basso adesso avrebbe creduto in una riforma del Parlamento, del sistema politico, del suo interno? Non è il momento di far tornare gli italiani a parlare fra di loro attraverso un'assemblea costituente, nel senso tecnico giuridico del termine, e cioè di fonte extra ordinem? È un interrogativo. Io mi compiaccio con l'iniziativa, però crediamo che sia possibile. Grazie. Prego, Mariuccio Saldati. Sappiamo come si chiama. Non me l'ha detto. Non lo so. Vuole dire il suo nome, però. Scusi. Tamassia, professor Tamassia. Grazie, scusi, così aiuto la Presidente. Ritorno, raccolgo l'invito a parlare di basso, quindi ritorno più che altro all'intervento di Chiara Giorgi, a quanto ci aveva ricordato rispetto alla nascita dell'articolo 49. Lo dico per una ragione molto semplice. Ho pensato, e in questi ultimi mesi, anni, c'è stato anche l'anniversario del centro-sinistra, che coincide con l'anniversario della uscita dal Partito Socialista di Basso per fondare il PSIUP. Ecco, a quel punto siamo nel 64. Mi chiedo, certamente ancora in quegli anni scrive per l'ISLE sul partito politico, il partito politico è al centro della sua attenzione, nella forma sempre appunto di perno della democrazia. Però che cosa rappresenta il centro-sinistra e la spaccatura del Partito Socialista? Ed su questo vorrei richiamare la vostra attenzione. Un momento forte di visibilità dello spostamento delle attività di governo. Basso esce perché non vuole partecipare all'attività di governo. Il momento forte dell'attività di governo in funzione di una riformismo di tipo economico, di una programmazione economica, cioè subentra come attività di governo e quindi così, e quindi come attività del partito, cioè il partito deve, prima Preferrare ricordava il discrimine tra i socialdemocratici e non i socialdemocratici, è lì il punto, insomma, nel momento in cui l'attività del governo si assume su di sé anche il grande problema del sistema economico del paese e quindi le soluzioni che a questo sistema si devono dare. Io credo che quello sia un discrimine fondamentale. Basso, scusate, io c'ero, come si dice, Basso uscì deluso, distrutto dalla formazione PSIUP, ne fu totalmente deluso. Del resto Nenni annota nel suo diario dicendo che, appunto, ma come può reggere questo partito con un lussemburghiano come Basso, un Morandi, un operaista come Morandi, insomma, diciamo, come stanno insieme? Ecco, come stanno insieme? Stavano insieme nel rifiuto della partecipazione a un governo che si facesse carico di un programma di riforma economico, cioè si facesse carico di questo. Allora, io credo che non possiamo confondere, diciamo, ecco, no, l'attività del partito politico. Allora, torno a un altro problema che è stato sollevato. Quello era un momento altissimo di coincidenza tra nel sistema politico tra rappresentanti e rappresentati. Era il massimo momento, nel senso che appunto abbiamo un grosso, diciamo, un'economia che funziona, un'economia che tira, è il momento, è stato dimostrato recentemente in un'opera appena pubblicata proprio da Fabrizio Barca e Carlo Trigiglia, è il momento di minore separazione tra nord e sud, cioè di maggiore vicinanza tra nord e sud, è il momento di massima partecipazione politica, pur essendoci appunto gruppi fuori dai partiti, ma in realtà la spinta, diciamo, l'idea di futuro, l'aspettativa di futuro, Coselli che dice il rapporto è sempre quello, no? Tra esperienza del passato e aspettativa del futuro. Questa congiunzione deve dare il partito politico, no? Deve esserci questo, insomma. Ecco, quello è il momento più alto. Non, ecco, il partito politico, tra l'altro, in quel momento riesce con abili, diciamo, cioè, ci sono esecutivi forti che stabiliscono, diciamo, sulla base dei voti e quindi rappresentativi, diciamo, che vengono raccolti nella Sicilia piuttosto che nel Veneto, i rappresentanti come devono essere distribuiti e come devono partecipare al governo. È stato fatto questo studio da Sidney Tarlo, insomma, no? Cioè, tanti voti nel Veneto, tanti rappresentanti del Veneto che stanno al governo. Ecco, questa cosa crolla, ma crolla in coincidenza, ripeto, col crollo di questo sistema economico-sociale che aveva espresso questa forza, che aveva espresso questa domanda e che aveva trovato in questo meraviglioso sistema costituzionale e nei nostri partiti, appunto, io sono per la difesa dei partiti, torno a dire, però anche un modo di conciliare questi due aspetti che devono fare parte del programma politico del governo, appunto l'esperienza e la prospettiva. Crolla perché crollano i partiti, perché crolla il sistema internazionale, ma perché crollano anche perché ci sono i 20.000 dei quadri della Fiat, perché appunto il sistema, il complesso, diciamo, la dinamica sociale cambia. Entriamo in una crisi economica, anche internazionale, anche di paese, a cui cerchiamo di rimediare con un di più, anzi, di intervento e di d'azione da parte dei partiti politici, cercando di essere legittimati al famoso livello territoriale. Ecco, io torno a quell'opera che ho citato prima, Treccani, appunto, che è sull'ultimo trentennio e sulla presenza e la forza dei territori, delle regioni. Ecco, questo c'è stato, ve lo ricordate, negli anni 90, una grande fiducia e una speranza che quello desse di nuovo rappresentanza. Ecco, con la modificazione della legge elettorale, con appunto l'elezione diretta di sindaci e anche questa cosa, è a questo punto che diventa anche importante per noi, perché questa cosa non ha funzionato e stiamo ancora inseguendo il modo di intanto il divario nord-sud è proprio dilagato, della questione meridionale non si parla più, esiste una questione settentrionale che è data dal fatto che il 65% del denaro viene raccolto da Roma in su, quindi diciamo tutti questi elementi creano problemi, ripeto, di rappresentanza e il partito politico questo problema se lo deve porre. Io credo nella, diciamo, dinamica territoriale, nella necessità di avere questo, diciamo, anche questo bacino e questa attenzione territoriale, ma certamente il partito politico così come era stato concepito da basso, Chiara Giorgi ha ricordato alla fine di corsa, diciamo, come questo partito politico fosse in realtà, come dire, la macchina che era già stata messa in piedi negli anni 30 dal sistema fascista, insomma il primo partito di massa in Italia è quello fascista, poi arriva la pluralità dei partiti ma la macchina rimane quella lì. Ecco, quindi il partito va sicuramente sempre più snellito, sempre più articolato, ma raccolto attorno appunto a una prospettiva di futuro che significa politica. Ecco, non ho risposte naturalmente, volevo sollevare i problemi. Grazie. Grazie Mariuccia. Miguel Nicol, prego. Sì, grazie. Alcune cose forse non coordinate una con l'altra, ma che rientrano nel tema in generale. Sto facendo il senatore, la mia prima esperienza, ed è molto interessante, ho l'impressione, questa legislatura, perché è una legislatura di transizione e al tempo stesso di trasformazione del sistema politico. e ho l'impressione che questa volta stia avvenendo per davvero. La mia impressione è che questo sta avvenendo grazie a un governo in cui il Partito Democratico ha un ruolo straordinariamente egemone, e sta avvenendo non tanto per convincimento parlamentare, ma sta avvenendo per una sorta di resistenza del ceto parlamentare a un'assunzione di responsabilità. E questa resistenza da parte del ceto parlamentare a un'assunzione di responsabilità, cioè di coincidenza fra principi, valori e poi conseguenze nella espressione dei voti e nei sostegni, credo che derivi in massima parte, però dovrebbe essere studiato, non so se lo si sta già facendo, però da una sorta, diciamo, di sociologia politica, del ceto politico, di come sono composte queste due assemblee, Camera e Senato. Cioè, secondo me c'è, ma sarebbe da verificare, lo dico soltanto a lume di naso, un eccesso di professionismo politico che è prodotto da carriere all'interno degli enti locali. Per cui, di conseguenza, l'essere diventato deputato o senatore è il coronamento ed è vissuto come tale di un percorso che ha una storia di una rispettabilissima, di una quindicina d'anni alle spalle. Esperienza comunale, regionale o provinciale e poi. E c'è una relazione che si sta rivelando da questo punto di vista estremamente condizionante la qualità della democrazia che stiamo vivendo, con un eccesso di rinnovamento che c'è stato nel Parlamento, di cui il Partito Democratico è stato protagonista con Bersani, le primarie, e hai veramente un eccesso di giovani che stanno vivendo l'esperienza parlamentare negli anni in cui si dovrebbero formare a una professione. Non hanno un lavoro, non hanno un reddito, ma basterebbe fare un lavoro nel rapporto, no? Tra le dichiarazioni che vengono fatte ogni anno per legge, e non hanno un lavoro, non hanno un reddito, e di conseguenza questa esperienza è un'esperienza che, a prescindere dai contenuti della produzione, dalla riforma, passiamo di riforma in riforma, come delle farfalle, a prescindere da questo fiore in fiore di riforme, c'è una necessità di autoriprodursi o di resistere o di non perdere questa condizione. Per quanto riguarda l'Italia, e credo che sia questo combinato disposto tra vecchio e nuovo, più una novità dal punto di vista sociologico e della composizione rispetto a precedenti legislature. Siamo arrivati Poi, per quanto riguarda l'Italicum, io sono fra quei 24 senatori del PD che non hanno votato l'Italicum, e in primo luogo perché avevo, non essendo un costituzionalista, però a lume di naso, dubbi sulla sua costituzionalità. Naturalmente la costituzionalità non risponde da un "io penso", c'è una Corte Costituzionale che, se ci sarà un ricorso, lo valuterà. Ciò che secondo me mi faceva dubitare era la relazione tra le pluricandidature e i capolista bloccati. Cioè, ho l'impressione che da questo combinato ci sia un eccesso di espropriazione, o ci possa essere un eccesso di espropriazione del controllo, della finalizzazione del voto da parte dell'elettore. Poi ci sono anche delle considerazioni di carattere politico, quindi non formale o giuridico. Giudico una follia, un'incoscienza, ad esempio uno sbarramento al 3%, che avete capito, porterà a una frammentazione evidente, perché il 3% in un paese di fazioni come l'Italia non si nega a nessuno quasi, che è funzionale però a un disegno politico che a me non convince. Questa frammentazione è un divide et impera che porterà di fatto, e lo vedremo, a una lesione della democrazia dell'alternanza, che in fin dei conti è stato il merito degli ultimi 20 anni. Cioè, noi abbiamo è un ritorno al passato, senza però le condizioni storiche di quel passato: guerra fredda, partiti autorevoli, No, la novità di questi 20 anni è stata una giocarsela fra centrosinistra e centrodestra. Questo avverrà, non avverrà o avverrà con maggiore difficoltà, e concordo con tra le righe o anche non tra le righe con quanto diceva la Finocchiaro, nel senso che questa condizione in Italia inevitabilmente favorirà un po' il conformismo, e vedrete che i prossimi parlamentari saranno scelti con i medesimi criteri, cioè di giovanilismo e di conformismo, trasformismo evidentemente, e poi anche purtroppo l'aumento della corruzione. Cioè noi stiamo costruendo un gorgo dove ci sarà un solo grande albero per una fase che dura. Allora, il problema un pochino è il PD. Lo dico da senatore del PD e iscritto a questo partito, che però è al tempo stesso anche una risorsa, o può essere una risorsa di questa democrazia, che si può trasformare in un problema. Tante volte in questi mesi mi è capitato di dire e di pensare, ma le cose che stiamo facendo noi con grande baldanza, se le avesse fatte negli stessi termini Berlusconi, ma soltanto 3 anni fa, noi, popolo di iscritti, militanti, elettori, società civile, ceto medio riflessivo, cosa avremmo fatto e detto? Ho sempre la sensazione di un grande scarto, di un eccesso di scarto tra il nostro o silenzio o condivisione, assenso, e invece quello che avremmo fatto, che so io, se Berlusconi avesse fatto il Porcellum, non con una maggioranza, ma imponendo la fiducia, come abbiamo fatto noi. E, allora, c'hai un problema di partito proprietario, Berlusconi, c'hai un problema di partito marchio, Grillo, hai invece una novità. Il PD da questo punto di vista prima era un'anomalia, cercava di non essere un partito del leader, in che senso? Ma avviava un processo politico che deve durare 10 anni per dare dei frutti, provava o ha provato. Non è avvenuto, di conseguenza in questo momento siamo un partito del leader, che però non è proprietario di questo partito, non è un modello berlusconiano e non è neanche un marchio, cioè non è un marchio di... è una cosa specifica. Allora il problema è che le condizioni di sopravvivenza biologica di un partito del leader sono direttamente proporzionali alla capacità che questo leader ha di stabilire le condizioni istituzionali e costituzionali perché questa durata della sua leadership si protragga nel tempo e duri quanto la sua biologia, quanto la sua vitalità politica. Un decennio. Ma c'è un processo, diciamo, tra... Allora, questa legislatura sta servendo a questo, ma io ne sono perfettamente consapevole in ogni mio atto, cioè sta servendo tra la legge elettorale e la riforma che stiamo facendo del bicameralismo perfetto a creare delle condizioni istituzionali e costituzionali perché possano dare forza a un partito del leader che non è né proprietario e non è neanche un comico Grillo, eccetera. Cioè che per tenersi su ha bisogno di condizioni, ripeto, istituzionali e costituzionali. Finisco sullo statuto, perché poi quindi se il PD è risorsa, ma al tempo stesso può essere un problema, allora è inutile starci a girare intorno. Se è vero che è l'unico partito che può discutere dell'articolo 49 come stiamo facendo, c'è una questione enorme dello statuto del Partito Democratico. Su due assi di fondo. Uno, e la stiamo sperimentando adesso, nei suoi limiti ma anche nella sua efficacia, dell'identità tra segretario e premier. La stiamo sperimentando ora. E probabilmente era stata sottovalutata la potenza che può sprigionare questa identità, per quanto lo statuto del PD consente. La conseguenza è inevitabile. I corpi intermedi possono fingere di contare, ma non contano. È la realtà, la crudezza, la verità della politica. Cioè i capogruppo non hanno lo stesso ruolo che tradizionalmente la storia ha consegnato loro in una democrazia parlamentare. Le direzioni nazionali di quel partito non hanno lo stesso ruolo che tradizionalmente possiamo fingere che lo abbiano, ma non lo hanno. Possiamo dire che ci convochiamo ogni volta e discutiamo tantissimo, ma è un'altra roba. C'è una seconda questione che è quella delle primarie aperte, concordo con chi mi ha preceduto, con la Finocchiaro, cioè tu non, con le primarie aperte cosa vuol dire? Che tutti possono votare, tutti, per vari calcoli a livello locale, nazionale, eccetera, eccetera, hanno fatto di questo partito, in base a quello istituto, non un partito contendibile, come giusto che sia, ma un partito scalabile, benissimo, ormai è avvenuto. Essendo aperte però, non solo con le primarie aperte vengono eletti, in base alle proporzioni delle primarie aperte, i segretari regionali, vengono elette anche le direzioni nazionali. Ma questi ormai sono problemi del 2007, cioè nel 2007 non c'è stato nessuno che abbia alzato il dito e abbia detto va benissimo le primarie aperte per scegliere il presidente del consiglio, il segretario del PD, perché in base allo statuto è anche presidente del consiglio e va benissimo che siano aperte. Però per esempio le direzioni nazionali del partito non ce le facciamo condizionare, no? Non è una carica monocratica, facciamola condizionare dagli equilibri che sono stabiliti dagli soli iscritti. Cose così sensate nel 2007, ma ormai 2007 è 8 anni, cioè è andato via tutto, cioè è andata, finisco, e naturalmente trasformano questo PD, le primarie aperte, in un comitato elettorale permanente. Ma smettiamola di farci di ridere su questo. A ogni livello, locale, nazionale, dove ci si aggrega o ci disaggrega quando ci sono degli appuntamenti elettorali. Anche naturalmente tutto questo aumenta quindi fenomeni di trasformismo, corruzione e è inevitabile. Cioè quando c'è la ciccia ci si aggrega, quando non c'è la ciccia ci stanno gli iscritti del PD che si riuniscono, gli iscritti del PD. E niente, ho finito, va bene, sul finanziamento pubblico c'è qui il Sposetti, in realtà siamo stati in 2 a non votare il finanziamento pubblico, cioè... E 2 su 100, su 106, 108, lui ed io. E questa è la ferita, questa legislatura poi finirà, no? Ognuno tornerà a fare i propri lavori e c'ha una coscienza. La ferita di questa legislatura, che tra l'altro tecnicamente non dipende da Letta, ma da Renzi, ma solo da un patetico tentativo di Letta di cercare di arginare Renzi su uno stesso terreno, ed è stato l'ultimo provvedimento votato, è una cosa, sai, la nemesi della storia, l'ultimo provvedimento votato al governo Letta che stava già, è quello che è il trauma e la ferita. Cioè noi lì che abbiamo creato un problema a democrazia italiana. Cioè non esiste democrazia senza finanziamento, democrazia dei partiti, democrazia parlamentare senza un finanziamento pubblico. Cosa faremo? Faremo delle cene. Continueremo a ingrassare. Dobbiamo essere sinceri fra di noi. Queste cene hanno un nero e un bianco, è così, è in questo modo, e naturalmente sono un sistema che funziona soltanto per chi governa, cioè che distribuisce potere a livello locale e a livello nazionale. Nessuno va a cena dall'impotente, nessuno. Quindi di tutti gli altri sistemi di finanziamento, dico la cena come simbolo, di tutti gli altri sistemi di finanziamento saranno piene le cene dei potenti, che avranno un bianco e un nero, e sarà quel tipo di finanziamento, non quello in bianco, quello in nero, a determinare le candidature. Possiamo far finta di no, ma è così, cioè sarà così. E ho finito, perché poi alla fine di questa storia tu avrai, e ci va benissimo evidentemente finché si vince, no, a noi non va bene. Ma c'è sì, ci sono anche costruzioni retoriche non è solo tutto, e ci va benissimo naturalmente finché si vince, ed è sul finché si vince che bisogna riflettere. Esattamente, perché vincere e vinceremo è un tipo di cultura politica che attiene poco alla cultura politica della sinistra italiana. Quindi andrà benissimo finché si vince, sarà una catastrofe quando ci sarà l'incrinazione, una catastrofe per la sinistra italiana e i suoi valori in tutte le sue multiforme declinazioni. Noi staremo e avremo un partito al centro del leader che garantisce la vittoria dentro questo quadro bloccato, di democrazia bloccata, populisti urlanti fuori, Salvini, e finisco, avremo un'anarchia feudale nelle periferie. Il patto è questo, leader al centro e quindi poi no, le conseguenze, chi ama la sinistra farà, ne trarrà le conseguenze. No, io volevo dire una cosa prima di tutto organizzativa per noi, nel senso che le cose che sono state dette fanno cambiare, per fortuna devo dire, in realtà fanno cambiare anche l'agenda dei lavori, e dopo questo intervento di Miguel mi veniva in mente quando negli Stati Uniti è finito l'era del governo di partito, sono tramontati i partiti di massa fra cavallo fra 800 e 900, i partiti erano partiti tutti, era una federazione di poteri territoriali, quella del Partito Democratico Americano, i repubblicani furono i primi a costruire una classe dirigente nazionale, e l'animatore di quella costruzione fu uno specialista di campagna elettorale che si chiamava Hanna, che disse: in politica contano due soldi, due cose, una sono i soldi, l'altra non me la ricordo. E il tema è chiaramente un tema molto forte, e io devo dire, se devo fare una critica rispetto al decreto legge 149 del 2013 sul finanziamento dei partiti, sarebbe stato forse più efficace legarlo allora al dibattito di adesso, non dividerlo con quell'area di emergenza che arrivava, per cui sembrava che se non si toglieva il finanziamento pubblico il paese crollava, ma forse serve proprio un tipo di dibattito molto più ampio, e quindi il fatto che l'abbiamo cominciata senza accorgercene un po' mi preoccupa. Sarebbe stato più necessario un altro tipo di... chiudo qui su questa cosa, perché obiettivamente, effettivamente bisogna stare attenti, se non si regolamenta, a quello a cui si va incontro, perché nel momento in cui io, e qui parliamo proprio del Partito Democratico, ho un Presidente del Consiglio rafforzato, un candidato, un segretario del Partito Democratico che è necessariamente candidato Premier, in un sistema di finanziamento privato, io ovviamente vado a cercare una relazione personale con, dal principio fino al tempo delle primarie, e questo, il percorso è talmente chiaro ed evidente che porta poi a quello che è successo negli Stati Uniti, proprio. Cioè il fatto che i partiti di massa, che erano brutti, sporchi e cattivi perché erano organizzazioni clientelari, paramafiose per certi versi, ma insomma garantivano anche non è questo il momento per affrontare la questione, però dopo quel passaggio la democrazia negli Stati Uniti ha subito un deperimento su un altro fronte, perché è diventata effettivamente una democrazia dove contano e si pesano i quattrini. Quindi questo è un punto ed è interessante capire se esiste uno spazio di dibattito su aggiornamento di quello che è successo appena 2 anni fa. E questa questione mi sembra dirimente. L'altra questione invece, adesso su questo esco l'ho scoperto, nel senso prima non ho voluto citare, però quando abbiamo pensato a questi seminari abbiamo pensato a quali sono le sperimentazioni dico un'altra cosa. Prima il professor Luciani diceva la questione della individualizzazione, no? Si arriva sempre, come dire, a un certo punto si arriva a un momento, come dire, c'è il passaggio sociologico in cui si descrive una società che è necessariamente disgregata. Le società si disgregano e si riaggregano semplicemente perché le identità collettive esistono sempre, anche se cambiano in una forma in cui sono fortissime anche le identità individuali. E questo tocca la politica, cioè la credibilità si ricostruisce sul campo, altrimenti non si capisce come mai un popolo di socialisti, come erano gli scozzesi, a un certo punto hanno deciso di essere scozzesi. No, evidentemente a qualcuno l'identità collettiva si costruisce con artifici, con riti, con lavoro, eccetera, eccetera. Scusate la banalità. Quando parlavamo delle sperimentazioni avremmo potuto parlare anche di quelle inglesi, perché in Gran Bretagna c'è stato un enorme investimento del Labour che evidentemente non ha funzionato sulla ricostruzione di comunità politiche. Hanno chiamato il solito guru americano dagli Stati Uniti per ricostruire con strumenti di community organizing, ma poi ha vinto il conservatore che ha chiamato invece gli specialisti della campagna elettorale di Obama. Io vengo adesso da una sperimentazione fatta con Fabrizio Barca sul di sostegno al a 10 piccoli territori dove il Partito Democratico ha svolto delle attività progettuali, in cui ha svolto una funzione di pungolo, di ricostruzione di forme di rappresentanza, e però alla fine della giostra, e questo si può discutere per legge, poi tocca ai partiti, la questione era: però noi vogliamo contare, vogliamo pesare, banalmente questo, quindi la cosa va reintrodotta in qualche modo, va reintrodotta anche attraverso un sistema normativo. E questo penso sia il minimo, come dire, il minimo sindacale che andrebbe portato a casa da un progetto di questo genere, di cui dobbiamo rivedere l'agenda. No, io vorrei, credo che alle nostre questioni, alle nostre domande a cui dovremmo rispondere nei nostri seminari, dovremmo aggiungerne un'ultima. L'immagine del sistema politico italiano descritta adesso da Miguel Gotor ha qualcosa a che fare con la democrazia rappresentativa, non diciamo con la democrazia parlamentare? A me pare che dobbiamo partire da un'analisi assolutamente assolutamente realistica della situazione, per prendere atto del fatto che l'involuzione autocratica del sistema politico oggi fa della questione dei partiti la vera questione costituzionale. Mi rendo conto che la proposta della separazione tra partiti e Stato, tra partiti e istituzioni, è una proposta radicale, provocatoria non mi piace, perché ha la sensazione di essere così una proposta destinata al fallimento, sicuramente non passerà, però io credo che soltanto attraverso questa strada i partiti possono tornare ad essere organi della società. Luciani diceva che è in crisi il rappresentato, è ovvio che è in crisi. Il rappresentato è in crisi perché è venuta meno la soggettività politica. Parole come movimento operaio e classe operaia non sono più neanche pronunciabili a causa del venir meno dell'uguaglianza, della sensazione di appartenere ad una comunità di uguali, con uguali diritti. Tutti sono messi in concorrenza, in competizione con gli altri, il rapporto privilegiato è il rapporto con il datore di lavoro, con il potere, si sono rotti i legami sociali, ognuno pensa a se stesso. Questa è la crisi del rappresentato, che naturalmente non è risolubile con le leggi, ma certamente se vogliamo rifondare o comunque salvare quel tanto che è possibile la democrazia rappresentativa, l'unica strada è rafforzare i partiti, restituirli al loro ruolo di organo della società. E qui vorrei ricordare come la ricetta della separazione, concepita da Montesquieu, è la ricetta fondamentale nei rapporti tra poteri, e che è tanto più importante la separazione quanto più riguarda poteri statali e poteri extrastatali. Da un lato i poteri economici, finanziari, dall'altro i poteri sociali, e cioè la società organizzata attraverso i partiti. In assenza di queste separazioni, i poteri economici prevalgono, se non altro per il loro carattere globale, sui poteri politici, che sono chiamati semplicemente ad eseguire le richieste dei mercati, e i poteri politici prevalgono sui poteri sociali, e cioè sulle forze, diciamo, cosiddette della rappresentanza, e cioè i partiti, ridotti appunto a organismi parassitari, a corti del capo o comunque a comitati elettorali. Se vogliamo ribaltare questa gerarchia antidemocratica e rendere la politica in grado di recuperare le funzioni di governo sull'economia, la rilegittimazione della politica passa soltanto attraverso la rifondazione dei partiti. La separazione, sotto questo aspetto, è la chiave. Ed è abbastanza assurdo che non sia stato, certo, in passato, nei momenti felici, i partiti non nati nei momenti migliori sono i partiti operai dell'Ottocento, quando praticamente erano partiti contro le istituzioni, contro lo Stato, sono i partiti operai, garanti dei più deboli. E poi dopo la liberazione, quando venivano per l'appunto dalla lotta antifascista, quindi c'era una garanzia intrinseca, oggettiva. Ma oggi, di fronte a questi processi, di fronte alla trasformazione dei partiti, nel migliore dei casi in gruppi di interesse, nel peggiore in forze scalabili anche dalle organizzazioni criminali, E a proposito del finanziamento, questa storia del finanziamento privato da parte, adesso diceva ad Alessandro Ferrara, da parte di società per azioni è una cosa in contraddizione con il ruolo stesso del finanziamento. Abbiamo parlato, ne parlava Mattia, degli Stati Uniti. In Messico la politica è stata distrutta dal finanziamento privato delle elezioni da parte delle organizzazioni del narcotraffico. Le organizzazioni del narcotraffico condizionano totalmente i presidenti e i governatori, che sono praticamente ricattati. E il ricatto proviene anche da questa formazione. Insomma, il giovane che non ha né parte, che va in Parlamento, è chiaro che vuole, ha come legittimo interesse la rielezione. Allora, se noi non ristabiliamo questa separazione, in forza della quale il partito ha la credibilità che proviene dalla mancanza degli interessi personali, ma oggi più che mai è possibile che il segretario, il presidente del Consiglio, con tutti i poteri che ha, è anche segretario del partito che dovrebbe chiamarlo a rispondere. Cioè la separazione è il presupposto della mediazione rappresentativa, che avviene fra due soggetti, rappresentanti e rappresentati. Quindi io credo, naturalmente il dibattito di oggi mi fa capire quanto questa questione deve essere oggetto di riflessione, di discussione, di dibattito, perché in effetti questa separazione, nella quale non credo come prospettiva realistica, è una questione teorica oltre che istituzionale, oltre che legata, diciamo, alle vicende politiche dell'Italia, rafforzata dalla crisi italiana, ma è una questione di fondo. E allora, nei nostri, diciamo, nel nostro percorso, assumiamo anche come uno dei seminari, i seminari proposti da Fabrizio Barca, che tra l'altro ha avviato questa discussione sul partito proponendo in parte questa separazione, forse non nei termini radicali proposti da me, fra cariche di partito e cariche istituzionali, un'analisi delle degenerazioni intervenute nel nostro sistema politico, partito azienda, partito marchio, i vari partiti populisti e partito personale, il partito personale. A me interessa poco se è personale perché è proprietà o perché il meccanismo lo rende praticamente nelle mani. Abbiamo un'involuzione autocratica del sistema politico rispetto alla quale la questione dei partiti è soltanto un aspetto, però, per così dire, pregiudiziale rispetto al futuro della democrazia. A me fa piacere che siano intervenuti esponenti così importanti del Partito Democratico, perché è dal Partito Democratico che dipende un dibattito di fondo su questa questione. E la proposta della separazione, che mi rendo conto difficile che possa passare, quantomeno a me pare, i nostri seminari sono finalizzati a questo, può diventare un tema di discussione seria, perché ne va precisamente del futuro della stessa democrazia politica. Benissimo, grazie a Luigi, grazie a tutti voi, il dibattito è stato sicuramente molto interessante. Per digerire tutto questo dobbiamo pensarci ancora, perché davvero politica, sociologia, filosofia, abbiamo molto materia. Ma ci stavamo... Ci vediamo presto.